Bentornati su Radio ZM. Zona Rossa comincerà a breve, appena Guglielmo si degna di scendere. Intanto vi lasciamo in buona compagnia con i Buena Vista Social Club, che riempiranno questa attesa imperdonabile di Guglielmo. Che poesia però, raga. Voi vi chiederete, ma perché non va avanti da solo? Perché Zona Rossa si divide in momenti differenti. Oggi è il turno di Guglielmo alla regia, quindi il programma non parte finché lui non preme on. Ovviamente voi non vedete, ma io appena attacco i microfoni parlo, appena li stacco inizio a cantare a squarciagola ste canzoni. Vi ricordo un po' di pubblicità iniziale, che potete scriverci al canale Telegram, anzi alla chat Telegram, Radio ZAM trattino basso chat. Yo soy guajiro y carretero, bamba, en el campo vivo bien que soy guajiro y carretero, bamba, en el campo vivo bien, bamba, porque el campo es el Edén, bamba, más lindo del mundo entero. Vi ricordiamo il canale Archive e il nostro nuovissimo e spassosissimo sito ZAM Milano, dove ci sono tutti i podcast. Sentito qualcosa di fastidioso? Qualcuno che ha detto che arrivo? Ma non è la quarta volta che dice arrivo. Meno male che la musica non manca qua. Quanto sarà un programma da solo, zona blu. Da domani faccio zona blu da solo. Scriveteci, insultateci, mandateci quel paese, messaggi vocali, foto, video, film, quello che volete. Radio ZAM trattino basso chat. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar servía arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Buongiorno a tutti e tutte. Io sono quel tipo di redattore, di amico che ti lascia in ritardo a iniziare la radio, che ti finisce il tè e non te lo dice, che lascia le tazze sporche. Sono generalmente una brutta persona. Sono Guglielmo. Ringraziamo chiunque abbia avuto voglia di mettersi in comunicazione con noi ascoltando questa fantastica radio, frutto dell'opera e dell'ingegno collettivo di un collettivo che è collettivamente una cosa stupenda. Il socio Lorenzo giustamente si è allontanato. Diciamo che il nostro briefing pre-puntata si allunga sempre un pochino. Lui fa le cose, io faccio le mie. Spostiamo i monitor nel frattempo. E al cosero voi para Martané, llego a puerto voi para Mayaré. Ed eccoci quasi pronti. Ua! Adesso ci mettiamo a piangere. Ma sì, con calma si fa tutto. Guglielmo, Buena Vista Social Club. Madonna, ne vogliamo parlare? Sono qua per noi a farci il live. Assolutamente. Grazie ragazzi, grazie. 800 anni l'uno. Andate piano, che siete un po' anziani. Hanno conosciuto e seppellito Che Guevara, Castro, Kennedy. Film pazzesco. Khrushchev. Una colonna sonora incredibile. Storia esilarante e pazzesca. Delle persone meravigliose. Vabbè, Emanuele, passiamoci leggermente il volume, godiamoci questi ultimi 40 secondi. Poi però mettiamo la sigla che ci tengo. Oh, è vero, è vero, è vero. È già tutto pronto. Oh, grande. Noterai questo... anche delle cose strane nella playlist Zona Rossa, però tu non ti preoccupare. Porco cane, hai fatto persino una playlist, ma quanto sei efficace. Eh sì, la Zona Rossa è la Z in fondo. Sì, esatto, però abbasso l'altro deck, che sennò ci sentiamo male. Va bene, buongiorno Lorenzo, buongiorno Guglielmo, tutto bene? Zona Rossa del 9° giorno di quarantena, che ormai si potrà definire ancora così. Io vado avanti a numerarle, nel senso che nel podcast, come potete vedere, trovate un numero che non è ovviamente il numero della puntata, ma il numero da quando è stata decretata la Zona Rossa, quel famoso lunedì, prima ovviamente lombarda, poi allargata a tutta la nazione. Da lì cominciò Zona Rossa, anzi in realtà la prima sera di Zona Rossa è l'8 marzo. Ricordiamo che Guglielmo andò in onda in solitaria, come quegli astronauti primi che vagano in solitaria, non so quali, non so verso dove. Ma lasciamoli lì, come me da solo, potevate lasciarmi lì alla deriva. Così, Cosmo. Così è stato per le prime 48 ore, poi siamo intervenuti e abbiamo soccorso il compagno Guglielmo, che poteva intrattenervi. Pensate, voi potevate avere 2 mesi di Radio ZM solo di Guglielmo. Ma penso che ci sarebbe stata un'impennata dei suicidi, una roba evidente. Dato che mi sento fortissimo, mi abbasso leggermente le cuffie. No, ma sono io, le casse anche lì, le che cuffie, magari danno fastidio. Sono io che ho le cuffie alte. Va bene, carichissimo. Io in realtà ti volevo mettere un tappeto musicale, ma prima lancio la sigla e te lo dico a microfoni spenti, perché così il ma pubblico tu intendi un tappeto musicale per quello bene. Che verrà dopo? Esattamente, è sì. È stato già pensato. Madonna, ma quanto sei fatto? Cioè, tu pensi prima che io pensi prima alle cose. Vabbè, mandiamo la sigla. Non succede mai a Zona Rossa, ogni tanto capita. Esatto. Mandiamo la sigla. E sigla. Dissolviamo, perché sennò viene poco bene. Viene poco bene, dissolviamo. We'll be right back. è il plagio migliore che ho fatto nella mia vita. E comunque è il furto più riuscito, come dicevano. È il furto più riuscito, questa che era una sonora. No, è la, come si dice, secondo me bisognerebbe finire la sigla dicendo "See you Space Cowboy". Esattamente, sempre in basso. Esattamente, insomma, alla fine della puntata noi lo diciamo, lo rivendichiamo, ci viene il durello quando c'è sta traccia. Sì, perché sì. È questo il nostro corpo e questo esprime, ci piace, lo porteremo avanti fino alla fine. Sappiamo che sono state fatte ovviamente per Zona Rossa dei remix di questa traccia, quindi invitiamo i Seth Bills, che salutiamo, si a dice inviarceli. Che problemi hai? Seth Bills, te l'ho detto 4 volte. Si dice Seth Bills. Vabbè, io con le pronunce lo sapete, abituatevi, va bene così. Però ci è arrivato già un regalo, vogliamo subito condividerlo con voi, perché è arrivato un regalo sulla chat della radio. Ah, e vorremmo subito farvi sentire cosa ne pensa la gente di Zona Rossa e di tutto quello che è composto Zona Rossa. Adesso secondo me dovresti tipo far passare un po' di silenzio nel frattempo che io cerco di caricare la traccia, ma no. Ah, non si può fare. Ah, perché è un OGG. Ma pensa che è un OGG ed è arrivato pure un GG. È incredibile, oh, tutto questo è incredibile. È gasatissimo. Solo Zona Rossa. Gasatissimo, solo... E io continuo a staccarmi le croste di collare piastrelle dalle ginocchia. Io lo sapevo che avevamo schifo. Il direttore. Il direttore è venuto, sì, a sorvegliarci. Quindi sono molto emozionato, molto contento di questo. Salve direttore, voi non lo vedete, ma noi siamo sull'attenti. Qualcuno ha detto che Zona Rossa. non diciamo, non diciamolo. È il programma. Mamma, il COVID mi ha preso, ragazzi. E voi potete andare benissimo sul sito di Zam e vedere tutto quello che è uscito da questa quarantena. Programmi che fioccano a destra e a sinistra. Poi sta a voi da casa decretare qual è quello migliore, la parola sbagliata secondo me, capito? Quello che interpreta meglio lo spirito dei tempi, per dirla come lo direbbe Hegel, ma invece per dirla come direbbe Deleuze, invece no, perché Deleuze come lo direbbe? Come ogni mercoledì mattina io e Guglielmo facciamo la redazione di tutta questa mirabolante puntata nel giro di 8 minuti di secchi, colazione secchi. Molto spesso 7:30, come 7, i biscotti 30. Che mangiamo secchi, esatto. E però durante la settimana vengono fuori delle idee molto particolari. Una che mi ha colpito particolarmente è anche trovare delle citazioni per Zona Rossa, sì. Che, come dire, Zona Rossa è come un concerto live senza la corrente, sì. Quelle cose lì, no? Quindi invitiamo voi a casa, il Cesa ovviamente è stata servita su un piatto d'argento, per trovare il sottotitolo. Il sottotitolo, i sottotitoli infiniti che può avere Zona Rossa. Cambieranno spesso, cioè tipo, non lo so, Zona Rossa è scarpa ma non suola. Esattamente, esattamente, cioè, esattamente. È un mixer senza la Phantom. Esatto, esatto. Non lo so. È ciò che manca, ma anche ciò tante. Che c'è. Ce ne sono tante, cioè, un cappellino senza visiera. Ma anche un cappellino con la visiera, perché poi perché siamo poi anche capaci di essere noi tempo, stessi, esatto, qualcos'altro, esatto. Anche. Ma va bene, ma veniamo oggi, a noi. Oggi, Guglielmo. A noi, senza fare citazioni di schifosi fascisti che ci auguriamo che siano sempre sottoterra, esatto. Ci finiscono molto in fretta. Oggi abbiamo un tema serio, siamo diventati una trasmissione seria, non è vero, non ovviamente. È vero. Però noi oggi vogliamo leggere, anzi, Lorenzo, per dare a Cesare ciò che è di Lorenzo. cretino, abbiamo deciso di leggere un comunicato che vi presenterà ora Lorenzo, mentre io già inizio ad andare in ansia di sbattimento, perché devo mettere 4 tracce 4, non ce la farò sicuramente, ma prego Lorenzo. Non vi dico quanti soldi ho sborsato per riuscire a fare 5 minuti di serietà a Zona Rossa, saranno soldi buttati perché non sarà neanche questa una altrettanto seria, quindi invito Guglielmo a far partire la traccia che si chiama Goodbye dall'inizio, per favore, perché vedo che si è già mangiato un pezzo. Però se io faccio così lui ha problemi. Ha problemi? Esatto. Siamo pronti. I'm sorry, but the person you called has a voicemail box that has not been set up yet. Goodbye. I'm sorry, but the person you called has a voicemail box that has not been set up yet. Pandemia, di tecno assoluzionismo e di come la tecnologia non ci salverà. In questi mesi abbiamo dovuto lavorare molto di più. Sembra buffo, visto che eravamo a casa. Nel frattempo tante cose sono successe su internet e con l'avvicinarsi di un dopo incerto vorremmo dire la nostra, sperando che questa riflessione servano ad aprire una discussione. O almeno a chiarire un poco alcune vicende fondamentali di queste lunghe giornate. Se c'è qualcosa che l'hacking ci ha insegnato è che la tecnologia è un terreno di dominio e come tale va scardinato. Oggi la soluzione tecnica viene sbandierata come panacea, semplice, accessibile, ma è pura propaganda. La tecnica asservita al potere economico e politico sembra avere il diritto di parlare di tutto, proponendo soluzioni che vanno dalla sanità, alla formazione, alla gestione dei flussi di persone, ma parla sempre da una posizione disincarnata, senza l'esperienza diretta delle problematiche e delle risorse fondamentali da perseverare. Questo tipo di approccio alla tecnica è per noi tossico, e Lacking continuerà a voler sollevare queste contraddizioni con i suoi strumenti. Premessa. Le istituzioni hanno scelto di avere fin da subito un atteggiamento paternalista, con l'obiettivo di scaricare il pesante impatto del virus sulla popolazione indisciplinata, che non rispetta i dettami della quarantena. Come se la limitatissima capacità di intervento non fosse dovuta alle condizioni critiche della sanità pubblica, stremate da anni di tagli, aziendalizzazioni su base regionale, privatizzazioni, accorpamenti e scelte sbagliate. Invece di assumersi le responsabilità di una strategia che ha privilegiato i grandi centri nevralgici ospedalieri a discapito di una sanità diffusa sul territorio, nelle comunicazioni ufficiali abbiamo assistito sgomenti all'elezione quotidiana di nemici pubblici, individuati in categorie finora impensabili: il runner, il genitore con passeggino, il ciclista. Si sono lasciate sole le persone anziane nelle RSA o nelle loro case, incrociando le dita perché non si presentassero negli ospedali, nascoste sotto a un grande tappeto mentre il problema del contenimento del virus veniva trasformato, con atteggiamento ottuso e punitivo, nel contenimento e isolamento della popolazione. In cima a tutto questo spesso si è preferito dar seguito alla volontà di Confindustria e di molte aziende di tenere aperti i luoghi di lavoro a tutti i costi, senza procedure di protezione verificate ed efficaci, sviando l'attenzione grazie ad un'insostenibile retorica di guerra, a giustificazione dell'esistenza della carne da cannone in corsia e nelle fabbriche così come in trincea. Il costo del sacrificio è caduto sulle persone più vulnerabili. Tecno, buzzword e Covid-19. La prassi sanitaria è stata opportunatamente confusa con la norma legislativa, attivando spesso un completo no sense. Si è operato uno spostamento del problema. Dal contenimento del virus si è passati ad un sistema di infrazioni da sanzionare, traslando così l'attenzione su quest'ultimo, il runner. Di nuovo, si prende un problema complesso e lo si riduce a uno collegato, ma più semplice, illudendosi e lasciando intendere che il secondo sia equivalente e risolva il primo. Si fa strada al sillogismo per cui constatare il virus significa sorvegliare le persone che vanno in giro qua e là. A questo si aggiunge la più classica politica delle buzzword, parole tecniche usate spesso in modo improprio per impressionare o influenzare chi ascolta con dei termini alla moda. Ci troviamo di fronte a un proliferare di buzzword che presentano strumenti tecnologici come panacea di tutti i mali. Questa è una forma di tecnosoluzionismo che non risolve realmente i problemi e apre una serie di ulteriori contraddizioni e criticità. La prima, il drone. L'ENAC ha dovuto effettuare una serie di concessioni sull'utilizzo di questi giocattolini perché i sindaci italiani più smart avevano iniziato ad autorizzare l'uso in autonomia. L'ente ministeriale ha dovuto in fretta e furia liberare l'uso di droni nei controlli legati alle ordinanze Covid, prima fino al 3 aprile, poi, nella paranoia generalizzata dell'apocalittico weekend di Pasquetta, l'ha rinnovata fino al 18 maggio. L'utilizzo propagandistico, per quanto inquietante, di questi oggetti volanti è molto chiaro. L'autorizzazione prevede la presenza di chi pilota sul posto, non in remoto, e la guida a linea di vista. I droni possono solo segnalare la presenza di persone da controllare, il materiale video registrato deve essere rimosso dopo il controllo e le infrazioni contestate sul momento. I controlli con droni sono stati effettuati in luoghi semideserti, fluviali o marittimi. A conti fatti, sembra più un divertissement per non annoiarsi in quarantena, visto che praticamente un vigile con un binocolo da 20 ore avrebbe avuto lo stesso effetto. Il salto di qualità avverrebbe con la guida da remoto e la registrazione ed elaborazione automatica delle immagini. Ricordiamocelo bene e non lasciamoci distrarre quando inevitabilmente qualcuno cercherà di far passare inosservato qualche temporaneo aggiustamento alla normativa, magari per far fronte a un'altra emergenza. Attualmente però i droni funzionano solo da generico spauracchio, utile a terrorizzare le persone, o da spot per sindaci sceriffi, col pallino dell'innovazione in cerca di visibilità e consenso. 2. App di tracciamento contatti. Non ci sembra interessante disquisire se il tracciamento avvenga con la collaborazione degli operatori telefonici o come sembra essere stato scelto, con il Bluetooth e le app sviluppate da Google ed Apple. La precondizione per questa fantomatica fase 2 è il ripristino di una sanità pubblica di prossimità, colpevolmente smantellata da scelte di governo bipartisan e risorsa imprescindibile per contenere le pandemie. Servono assunzioni, formazione, presidi medici diffusi sui territori, capacità di analisi, eppure non se ne sente parlare. Se non ci sono abbastanza laboratori di analisi per fare un tampone a una persona con la polmonite, se non c'è nessuna persona in grado di andarglielo a fare a casa, se non ci si prende cura delle persone capillarmente, a poco serviranno uno smartphone e un'app. Al massimo un'app segnerebbe un numeretto, ma a leggere quel numeretto poi chi ci sarebbe? E più chiaramente, è come costruire una casa partendo dalla porta, rifinirla di tutto punto con gli intarsi e lo spioncino a fotocamera e poi chiamare tutti e tutte e dire «Ecco qui, la porta è fatta secondo standard europei, è molto innovativa e rispettosissima della vostra privacy». È normale che poi ci si chieda «Ok, ma c'è solo la porta, dov'è la casa?». L'app trasla ancora il problema da una cosa difficile a una facile. In 2 settimane l'app la fai, poi, tossendo, la apri sul cellulare e scopri che non ha proprietà curative. Affrontare il discorso in termini di privacy e di tecnologie è esattamente il terreno su cui vogliono portare, per attuare il giochino dello spostamento del problema e puntarci contro un'altra ennesima grande arma di distrazione di massa. Non ci sono dubbi, preservare l'intimità digitale e la privacy è uno dei campi di lotta di quest'epoca. Il problema del controllo è connaturato al sistema in cui viviamo e la raccolta massiva di dati è uno degli elementi fondamentali su cui si basano abusi e repressione. Immediatamente però, alle attuali condizioni e per contrastare la diffusione del virus qui e ora, un'app è semplicemente inutile. E chi la utilizza, le buzzword app o innovazioni, sta colpevolmente contribuendo a sviare l'attenzione da quelle che sono le reali problematiche e a deresponsabilizzare chi ha realmente causato questa catastrofe sanitaria. Ultimo paragrafo. Didattica a distanza. La didattica, nell'impossibilità di utilizzare piattaforme pubbliche, si è frastagliata in mille rivoli e strumenti, pesando sulla buona volontà, intraprendenza e connessione del corpo docente, che lasciato alla propria iniziativa individuale, si getta a spegnere l'incendio che divampa grazie al vuoto sociale. Navigando tra Google, Zoom, Teams, WhatsApp, Skype, Facebook, YouTube, nella consapevolezza che l'esperienza didattica non sia riducibile esclusivamente all'erogazione di contenuti. Al netto di tutti i ragionamenti vi è la banale constatazione che la didattica a distanza non può essere sostitutiva e considerata equivalente nella didattica in presenza. Soprattutto che la fascia d'età sia i 18 e che il motivo per cui è stata imposta solo le carenze strutturali delle scuole, che disorganizzate e sovraffollate non permettono la didattica in aule opportunatamente distanti. Quindi si torna di nuovo alla questione principale. I problemi materiali si spostano nel digitale, ma il digitale non li può risolvere. La scuola, nel vuoto del pensiero e delle risorse strategiche, è stato di fatto consegnata in toto alle grosse piattaforme commerciali. Ancora una volta il meccanismo è il solito. Di fronte a una scuola trasformata in azienda, svilita, dove mancano i soldi e anche per il sapone, che andrebbe ripensata e riorganizzata con affetto, ci si affida al presunto potere taumaturgico della tecnologia. Non si può pensare che questa scelta non avrà ripercussioni sul futuro, né si può pensare che sia una scelta ovvia ed automatica, con buona pace di tutti i discorsi sul free software nella pubblica amministrazione che si fanno da praticamente 20 anni. Salvo poi scoprire che la tecnologia non è così accessibile, ma è invece ulteriore fonte di diseguaglianza sociale. Perché possiamo fare finta che non sia vero che molte persone facciano teledidattica con i giga del proprio cellulare, che il territorio italiano sia fatto di paesini sperduti e niente affatto connessi, che sfavillanti e velocissimi computer non siano affatto in ogni casa, però per l'appunto stiamo facendo finta. Quella che era già una tendenza problematica rischia ora di diventare la norma perché siamo in emergenza. L'emergenza di oggi porta al pettine i nodi problematici della società che abitiamo. Lo stato di crisi è strutturale e rende evidenti vulnerabilità preesistenti che non si possono risolvere normando l'emergenza solo in un processo di profondo cambiamento. Ma noi Amiamo gli enigmi e non ci spaventano le complessità dei problemi. Quello che temiamo sono le false piste e gli specchietti per le allodole. Ciò che stiamo vedendo e subendo in questi giorni non è altro che l'esasperata manifestazione di una serie di nodi che vengono al pettine e nessuna bacchetta magica smart basterà a scioglierli. Quando la politica parla di tecnologia, spesso lo fa per sviare l'attenzione dalle ingiustizie e problematiche sociali a cui ci chiede di rassegnarci. Consapevoli che ogni piccolo spazio di libertà sacrificato non verrà restituito ma dovrà essere duramente riconquistato, quando la parola chiave è emergenza, è ancora più importante svelare i meccanismi nascosti e leggere oltre la propaganda. Dobbiamo mantenere la concentrazione, scrollarci di dosso il ruolo di gregge e ritrovare quello di comunità pensante. Ricordarci ogni buzzword che è stata utilizzata sulla nostra pelle, scartarla e continuare a guardare dritto davanti al cuore del problema. Beh. Tanta roba. Due paroline le hanno dette. I compagni, le compagne della Unit. Sì, salutiamo la Club Unit, che è appunto coloro che ci permettono di trasmettere sul loro dominio. Vi consiglio di farci un giro, e abbiamo un dominio.org. Da lì potete ricollegarvi appunto anche a Radio Zam e a tutti i vari manifesti, i vari documenti. Questo lo trovate in news. È un documento scritto una manciata di giorni fa, che appunto fa un sunto che è stato anche abbastanza lungo, quindi mi scuso per non avevo cronometrato così tanto, e che però secondo me è molto interessante, perché è una cosa di cui si parla poco e di cui si dovrebbe parlare di più, che può toccare un sacco di argomenti. Mi scuso per questo momento di serietà in zona rossa, però era doveroso. Insomma, potremmo terminare questa canzone con questa canzone, sì, questa bellissima lettura con una canzone. Sono loro, sono i Pan del Diavolo, un gruppo italiano semi sconosciuto. A me piacciono molto. Secondo me questa canzone ha un po' i tratti di quello che stavi raccontando tu, questa visione ruvida, un po' come si dice, scontrosa della tecnologia, di questa situazione attuale. Quindi, come al solito, mi incarto sempre nella gestione dell'auto DJ. Buon ascolto. Yeah. Vieni a fare un giro, il mio guardaroba è tutto qui. Stai in una valigia sempre a partire, tu dammi il segnale giusto e il benvenuto, nel peggiore suono della tua vita, qui non ci sono capi, non ci sono professori, ci sono solo della musica, del lavoro, dell'anima. Folk rock and roll. Pesanti di sonno, milioni di giorno di passioni, va bene, adesso possiamo tornare a farci le pernacchie. Assolutamente, è durata troppo. Le scorregge con l'ascella. Ma in realtà abbiamo approfittato di Zona Rossa perché poi taglieremo questa quote. Ricordatevi di mandarci delle quote, di mandarci un sacco di roba. Eccolo lì, vai Madonna Guglielmo. Santa, Guglielmo è in regia, quindi oggi deve leggere tutti i messaggi che arrivano, li tocca. Mamma mia, c'è della gente che ci manda dei messaggi troppo lunghi e non diremo chi è, Davide Indovino. Ciao Davide! C'è veramente, cosa mi ha mandato? Un tema da leggere, ma va bene. Allora ricordiamo a tutti e a tutte che potete scrivere e interagire con questo fantastico programma scrivendo alla chat di Telegram chiocciola Radio Zam. Trattino basso chat. Bravissimo. Davide l'ha fatto e ci ha scritto così. Scusate, io la vedo così: bisognerebbe assimilare e trasformare la propaganda dominante dotandola di un significato più autentico e vicino alla reale dinamica. La guerra c'è, e come? Ma si combatte, ma non si combatte fra il virus e gli umani, ma fra gli umani stessi e le loro classi. Le narrazioni, per quanto contrapposte, fra la governance e il contropotere, per quanto alternative, si stanno inquietantemente avvicinando fra loro sempre di più, per quanto ancora non lo si riconosca a fondo. La narrazione della guerriglia e della guerra appartiene, e giustamente, da moltissimo tempo alle schiere anarco-comuniste. Questo potrebbe portare, in un lasso di tempo indeterminabile, al riconoscimento da parte di tutti gli schieramenti dell'inevitabilità della guerra e dello scontro aperto. Altra nota poi è che secondo me la tecnica, le tecniche, che spaziano trasversali per qualsiasi campo, secondariamente le tecnologie, ci possono salvare come, a seconda della consapevolezza con cui le pratichiamo. Disse il primate. Sta cosa di UNIT, mi sbaglio sempre a leggere il nome, sta cosa di UNIT mi pare quasi una contraddizione in termini. Non a caso proprio UNIT veicola il proprio messaggio attraverso il medium, e messaggio vanno sempre a braccetto e uno non è mai separato dall'altro, tecnico del web che viene prima sminuito ma poi lo stesso utilizzato. E quindi? La tecnica non salverà, ma possiamo essere d'accordo, ma ormai serve ed è necessaria utilizzarla per riequilibrare i contrappesi, esattamente come la radio a ZAM, penso. Cioè, capito che la gente si prepara su Zona Rossa. Si è preparato l'intervento. Si è preparato l'intervento per Zona Rossa. Ringraziamo Davide. Pusillanime maledetto. Accogliamo chiunque a far parte, a partecipare a questo dibattito. Esattamente accesissimo. Come la radio a ZAM. Esattamente. Ah, perché stavo ascoltando la radio al telefono e quindi siamo entrati noi stessi da noi stessi. È meraviglioso. Un colpo, ti giuro. Ho detto, no, c'è un altro Guglielmo. Cioè, veramente. Pensa che incubo. Un secondo. Sentivo la voce di Guglielmo e lui stava terrificante. Tipo, ventriloquo che non è capace. Mamma mia, non è capace proprio di stare al mondo. Va bene, io adesso però mi sono rotto le scatole. Riprendo possesso di questa. Di questo programma intero, di questa radio, di questo collettivo. Che si deve fare per forza. Per forza, è arrivato. È arrivato. Lo chiamiamo. Questo qua. Si sente. Ci manda i messaggi. Bravo, regia tua. Eccolo. Suona. Adesso gli raccontiamo. Dopo spieghiamo comunque. Prima. Comunque l'abbiamo ancora spiegato una mazza del tema di oggi. Ma no, ma si è intuito, penso. Ma no, cioè, che tipo l'hai di domanda faremo? 854 alle persone. No, vabbè, ho capito, si parla di tecnologia, ma non esattamente senso. Come faremo. Guarda che merda, non risponde. Veramente non risponde. Potrebbe essere il primo episodio di Zona Rossa che non risponde al telefono. No, è già successo. Poi noi dove eravamo arrivati all'interno di questo giro? No, ma quel giro lì adesso secondo me il rizoma, tu non lo sai che hanno una scadenza. Risponde la segreteria telefonica. Cioè ragazzi, non c'è risposto Cico, questa cosa è gravissima. Propongo subito di correre ai ripari chiamando qualcun altro. Hanno una scadenza, i rizomi, come il latte. Come il latte, Deleuze l'ha detto tante di quelle volte, ma dov'è la lezione? Allora, io stamattina ho scoperto che su Facebook c'è il gruppo perfetto, ecco, per infatti, Lorenzo. Nella colazione di Zona Rossa che parte dalla mattina, dove partoriamo, perché ma noi facciamo colazione anche a notte. Partoriamo i programmi. Ah, perché l'abbiamo detto ieri sera? Ma non me lo ricordo ieri sera più, ma non è importante. Giù. E abbiamo appunto trovato questo bellissimo gruppo, però se chiami la gente ma non ci sei dentro, cioè... Cosa? No, non squilla neanche. E perché non scrive, non ho ancora preso la cosa. Ah, ok. Madonna santa. Vedi come riempio vuoti. No, e quindi la questione è questa: che abbiamo scoperto che volevamo parlare di tecnologia a partire da questo bellissimo comunicato di UNIT. Volevamo chiedervi qual è il primo sclero. Bentornato su Radio ZM, Macio. Grande Macio. Come va lì in sala? Tutto a posto? Tutto bene, stiamo producendo e lavorando per il tutto. Ma per caso al tavolo con voi c'è anche un famoso doppiatore? Oh, è vero? No, non è più. Non c'è più. Stiamo scrutando l'orizzonte fuori, credo. Perché sta cercando l'ispirazione per continuare a doppiare. Esatto. Senti, Macio, dai, proviamo a partire da te. Mi sembra un buon inizio. Dai, infatti. La domanda che vogliamo farti stasera. Per tutte quelle persone che c'erano da chiamare, cosa ci vogliamo fare? La ruota ha girato e tu sei uscito. Non sei contento, scusa? Non ho capito. Non sei contento? Per niente. E vai, bravo, andiamo avanti così. Questo è lo spirito giusto. Giusta emozione per Zona Rossa, vai. Vai, vai Lorenzo, Guglielmo. Procedi con la prima domanda. Non se la ricordo. Prego, Guglielmo. Va bene, ok. Ascolta, ma noi abbiamo letto un bellissimo comunicato di Unit, che sono dei compagni della Madonna. Ah già, è vero, mi ricordo. Che ci hanno aiutato a mettere sulla radio. E quindi a questo punto, dato che siamo dei cerebrolesi, ti chiediamo qual è il primo sclero tecnologico che hai avuto nella tua vita? Ma peso, che hai spaccato la roba. Ma no, non ho mai spaccato la roba perché non ne avevo molta, quindi... Poverino, lui ne fa bella se non ce l'aveva il computer, hai ragione. Al quarto giorno arrivava malapena la corrente elettrica 10 anni fa. Esatto, lo sappiamo. Comunque il computer in casa della gente è arrivato molto più tardi. No, non ho mai avuto forse dei problemi col Sega Mega Drive. Oh! Ma tipo un telefono buttato per terra male per una lite, qualcosa, niente, no? No, mai fatto. Niente. Ho un po' sempre avuto pazienza nella vita. Una persona con la pace dentro, una persona con la pace dentro. Va bene, dopo questa telefonata penso che potremo chiudere Zona Rossa e smettere di trasmettere. No, invece, Mascio, devi dire per la prima volta da quando ti abbiamo chiamato, ci devi dire tu chi chiamare. Due persone. Una è un Jolly, quindi la più importante, e poi la seconda, Jolly. Chi chiamare? Sì, mettiamo giù con te, chiamiamo quello che ci dici tu. Tu lo sai che ci dici tu. La persona più chiamare oltre me. Sì. Se tu dici la persona più importante e poi l'altra, tu sai che creerai delle liti. Certo. Fiorenti, ma va bene, va bene. Qual è la persona più importante da chiamare, la riserva schifosa che può stare in aula? Allora, potete chiamare due persone abbastanza strane, cioè potete chiamare Fabio Zambetta. Uffia. Alberto Mussolini. Ustia, un cognome importante. Vabbè, ci devi mandare i numeri. Mandale, no, io un numero ce l'ho, l'altro forse no. Mi devi mandare quello di Fabio. Faccio. Va bene, te lo mando. Beh, comunque ci hai fatto fare un salto di qualità pesante. Io stavo pensando di chiamare Fabio un po' di tempo fa. Adesso scoprirai, Lorenzo. Grazie mille, Macio. Non voglio calcare, così lo potete chiamare. Vai, bomba. Grazie, Macio. Ci vediamo a cena. Ciao, Ciao. Adesso scommetti che quando scendiamo giù dice: ma perché non mi avete chiesto la canzone? Ma perché non chiediamo più canzone a nessuno? Perché non abbiamo chiesto la canzone? Perché siamo dei cerebrolesi. L'abbiamo già mandata 2 minuti fa, dai, ancora un po', stiamo un po' su, dai, okay. Poi mandiamo la canzone. Va bene, tu, allora andiamo il gioco bello che fai con l'auto DJ che intanto va sotto, che l'altro giorno mi è piaciuto. Cosa è successo? Cosa vuol dire? Lascia un po', esatto, lascia un così. Po' così, sì, così, così. Esatto. Sai che adesso devo ritracciare questi numeri e forse ho fatto lo splendido che ce li avevo entrambi, ma in realtà sto dicendo delle cose sbagliate. Guarda che arriva dalla regia. Vai, il direttore. Se me lo mandi. Intanto me lo vi intrattengo con questo bellissimo racconto, perché tra le tante 1854 cose che abbiamo pensato per Zona Rossa, un'altra era anche una sorta di contest grafico in cui inquadriamo veramente molto nel dettaglio delle microscopiche parti dei nostri corpi, tipo il brufolo sull'occhio mio sinistro, il sopracciglio, quello centrale di Guglielmo, il gomito, l'unghia scarnita, e ci scriviamo sopra Zona Rossa col font della Supreme, tutto bello, tutto figo. No. Ci starebbe. Io ho sentito soltanto mono sopracciglio di Guglielmo. È una grande verità, è una triste verità. Perché pensi solo a te? Ma è che se pensi solo a me, è la cosa più triste che possa capitare a questa radio, io credo. Vediamo se ci risponde. La persona seria lavora. Caro Fabio, rispondici. Lui potrebbe essere un super mega ospite. Potremmo dedicargli un divano di Zona Rossa. Lui è il nostro divano. Sì, è lui. Oh mio Dio! Non ci risponde. Non avevo capito che era Fabio Zio. Non ti risponde. Comunque ho visto che c'è. Mi ha mandato. Senti, anche l'altro numero, ragazzi, è una bomba. Hai presente il fenomeno della comunità filippina con le brigate? Sì. Ecco, per te è la radio e la gente normale è la stessa cosa. Ormai il tuo numero è segnato come Radio ZM. Sì, esatto. Mercoledì. Neanche tua madre non rispondere. Risponde più. Minchia, se chiamiamo mia madre. No. Vai. Tanto non ci risponde. Mi risponderà tipo come tutta l'altra gente. Oh, ma mi hai chiamato? Come tutta l'altra gente ti richiamerà fra un'ora e mezza quando saremo in connessione con... Non si dice. Cosa? Niente, il Jolly. Niente. Ci vuole il Jolly. Fare? Chiamiamo mia madre? No, il Jolly, Jolly di Macio. C'è un altro Jolly. C'è il Jolly di Macio. E pronti via. L'abbiamo conosciuto quando abbiamo fatto il nostro primo viaggio in Palestina. Lui è un videomaker bravissimo, con un tono fantastico di voce, romanaccio, quindi mi fa ridere un sacco. Ed è una persona estremamente tranquilla. Lo scoprirai anche tu, ci mette circa un quarto d'ora per scrivere un concetto. Se un videomaker avrà picchiato qualche oggetto tecnologico nella sicuro. Sua vita. Sicuro. Ma se non ci risponde nessuno dei due, come facciamo? Chiamiamo mia madre. No, io direi di tornare sui nostri passi del rizoma marcio. Ma se lo fai veramente schifo, mi fai andare indietro per poi andare avanti. Come ragazzi, rizoma. Se non risponde nessuno al telefono, però è un casino. Cioè, dovete rispondere a sto cazzetto. Non fate incazzare Guglielmo, perché poi sono affari miei. Esatto. Vabbè, dai, a sto giro chiamiamolo Norberto. Vodafone, servizio di... Dai, diciamoli che se non risponde non può fare, cioè non può andare avanti. Lo sapevo. Allora, vediamo un po'. Le minacce poco velate. Sì, esatto. Non può andare avanti perché mi sono esentato dal dire cose che comunque rappresentano forse delle noci di reato, per cui non dico niente, va. Che di sti giorni, guarda che... Comunque, il tuo sclero tecnologico qual è stato, scusami? Il mio sclero tecnologico, adesso lo raccontiamo, aspettiamo Norberto che secondo me... Adesso, allora, mandandoti a fanculo, ma ti risponde. Guarda che non mi risponde. Ma veramente? Ma ti guarda, fa sempre così. Ma che livelli che siamo, davvero. Sta diventando la trasmissione più noiosa del pianeta, comunque, cioè... Tutto questo è incredibile. Tutto questo è zona rossa, un personaggio che annoia se stesso. Vabbè, comunque, immaginate un attimo la scena. Correva l'anno 2002, 2003... No, forse meno. PlayStation 1, salotto di mamma e papà. Livello di Crash Bandicoot, ma di uno di quei boss che sono proprio bastardi. Ma così bastardi che io, come uno zen... Praticamente era come iscriversi al sito dell'Inps per prendere i soldi. Esattamente, wow. Esattamente. Io mi sono messo proprio come uno zen, ho preso il cofanetto del gioco. Scusa, ma cos'è uno zen? Come, in modalità zen. Ah, ok. Ho preso... Adesso inizio a correggerlo io. Scusa. Ho preso il cofanetto di Crash Bandicoot e gli ho sferrato un cartone così forte che l'ho spaccato. Ma lo scopo era quello. Ma perché tra l'altro erano perché quelle... non battevo il boss. Erano quelle custodie alte di plastica della PlayStation spessa, 1, sì, cosa, sì. Era un platinum, quindi no, era quella adesso, grigia. Però adesso sì. Sarebbe impossibile spaccarle perché hanno quella copertina, cioè hanno quella confezione a libretto blu. No, piccolina con la plastica. Il pugno lo lasci per terra, no, ti spacchi la mano con quello nuovo. Invece questo qua era bello perché si infrangeva. E quindi niente, quello è stato il mio primo schermo tecnologico. Gli altri sono stati sui computer principalmente. E potrebbe esserci una caterva, le gif che vedi in ufficio di quello che prende la tastiera e inizia a prendere a scarpate male il proprio monitor, esatto. No, Guglielmo ride perché sappiamo cosa ci aspetta dopo. Allora, il rizoma andava verso l'Ambretta, te lo ricordi? Che ci avevamo scivolati verso quella parte della città. Devo dire che sono stati i rizomi più simpatici di Zona Rossa. L'hanno presa proprio, soprattutto K. Ah, oggi tra l'altro che ridere, dopo racconto. E quindi chi cacchio, chi dobbiamo chiamare adesso? No, andiamo a rompere le palle e le ovaie a persone della nostra cerchia stretta e poi allarghiamo il giro. Quindi ripartiamo da Nobis. Io chiamerei Alessia. Tu chiameresti Alessia? Sì. Va bene, vai. Se me risponde. Vai. Poi ricordiamo a tutti e tutte che Zona Rossa può finire anche in due ore di segreterie telefoniche. Certo. C'è il rischio che ci accolliamo ogni giorno e noi siamo fondamentalmente gli eroi. Un programma tendenzialmente pazzo, esatto. Pazzissimo, malato proprio, completamente con fuori, dei problemi mentali. Fuori controllo. Esatto, anche da noi stessi. Oggi è l'anniversario della legge Basaglia. Ecco, diciamolo. Qua però non ci sta rispondendo nessuno. Niente, io... Come si fa? Ma la gente cosa fa a quest'ora? C'è un'assemblea da qualche parte? Non so, c'è la rivoluzione in corso e noi non lo sappiamo. Cosa magari è così. Sarebbe da Zona Rossa. Tutti i mercoledì. Sarebbe da Zona Rossa che c'è la rivoluzione in corso e noi stiamo facendo radio come gli idioti da soli. Qua a farle la cronaca. Niente da fare. Dai, senti, andiamo dal presidente. Mi sto affezionando alle segreterie. Cazzo. Quando non le sento mi mancano. Ho paura che escano con altre segreterie. Sta diventando un disastro sta cosa. Avessi il numero del sindaco, chiamerei il sindaco. Ma sai che è davvero? Cazzarola. Ma sai che è davvero? Oh, bravo, hai ragione. Ce l'ha il numero. Dai, chiamiamo adesso. Chiamiamo Collettone. Se nemmeno lei ci risponde al telefono, ragazzi, però è disperazione. Mandiamo un brano per... No, se pure lei non ci risponde, io chiudo baracca e burattini. È brutto. Non ci risponde. Ragazzi, cos'è successo oggi? Niente, c'è una mobilitazione al contrario. Allora, secondo me non possimo fare una quota alle 46esimo minuto. Non ci risponde nessuno al telefono. Bellissimo. Allora, zona dire rossa. Che, zona devo, rossa. Dire, devo dire, zona rossa. Devo dire che effettivamente... Le ribelli hanno anticipato. Hanno anticipato il loro appuntamento 6:30-20 per dare il permesso alle persone di mangiare. Noi entriamo a gamba tesa alle 19:45. Ma noi diamo il permesso alla gente. Ma noi siamo no, una, ma una noi dovremmo chiamare alle 3 di notte. Bravo, li trovi sempre. Già che diamo fastidio, bravo. Diamolo bene. Facciamolo alle 3 di notte e tanti saluti al secchio. Assolutamente. Secondo sì. Me le prime puntate sono spumeggianti, tipo gente in panico. Cos'è successo? Poi dopo un po' la gente ha capito. Da quest'ora il mio numero solo l'hanno tappato totale. Niente, ragazzi. Stasera un'ecatombe. Chissà quante chiamate avrò. Riavrò dopo. Non lo so. Facciamo così, guarda. Dimmi. Guarda, dimmi. Schema caos totale. Sei pronto a parlare mandinga? Sempre. Zona Rossa. Vai. Può anche questo. Adesso, forse un pochino in English anche. Adesso vediamo. Ciao Samba. ragazzi, ciao. Ciao Samba. Sei in radio, Samba, ti sentono tutte le persone che ascoltano la radio. On air live. Ok, va bene. Ok. Ciao ragazzi. Ciao, benvenuto su Radio Zam, Samba. Come state? Bene, bene, tu? Sto bene. Ascolta, ma bene, hai... Come? Bene, grazie. Ok, ascolta Samba, hai voglia di tradurre una frase per me? Così tutti gli amici e le amiche che sanno il mandinga e il pular possono ascoltare la radio. Non ho capito. Allora, if you want, now, if you can you translate for me one sentence in pular? Okay, now I tell you. You have to translate this sentence. Please, everybody, friends, boys and girls, listen, Zona Rossa, Radio ZAM. Jaffe, Jaffe, Caramedo, Heto, Radio Zam. Grande! Grazie Samba! Grazie Samba! Grazie mille! Ciao, anche voi. Ciao. Ciao! E vai! La quota numero uno stampata proprio nel ferro. Ragazzi, ci stiamo muovendo sull'Africa. Il mercato africano si sta aprendo per noi. Abbiamo i nostri validi interpreti. Trasmetteremo di brutto. Zona Rossa, Radio ZM, il collettivo sono pronti. Pronte. Possiamo dirlo serenamente: siamo avamposto. Cioè, vogliamo essere avamposto di sostituzione etnica. Ma c'è chi ci ascolta, c'è chi ci scrive e ci dice. ci dà una battuta brutta per tergiversare. Come si chiama un rasta in quarantena, Lorenzo? Non ridere, leggi. C'è la regia che... Attenzione, succede di tutto. Leggi. Red lockdown. Pronto Camillo? Pronto. Ciao, guarda che sei in diretta radio su Radio ZM. Perché ho il telefono attaccato al mixer, quindi tu mi hai chiamato, adesso ti sentono tutti. Allora staccalo. No che staccalo, sto facendo la trasmissione, dimmi tu quello che mi vuoi dire, se è una roba veloce facciamo così in diretta radio, tanto non abbiamo niente da nascondere. Niente, chiamami quando puoi. Basta. Ciao Camillo. Ciao. Ma come va lì a Ponzani, tutto bene? Sì, tutto bene, piove come Dio la manda, l'orto è in salvo. La stufa è accesa, fa fresco? Allora, c'è qui vicino a me un ragazzo molto robusto che ti saluta, si chiama Orso, lo saluti anche tu? Mannaggia, lo abbraccio forte, lo riempio pure di baci anche se non è d'accordo e gli tocco anche una chiappa. Oh, attenzione, momenti spinti. Ciao Cami. Ciao Orso, che Shiva ti protegga sempre. Anche a te, cazzo. Grazie. Va bene, dopo questa adesso aspetta. Telematica, mi vergogno, scusate tutti di questo triste intervento del vecchio di merda. Ma no, adesso aspetti, perché il problema vero è che non ci stava rispondendo nessuno, perché siamo così fastidiosi e pessimi che la gente ormai lo sa che quando chiamiamo a quest'ora non ci deve rispondere. Allora facciamo della cultura? Ma se addirittura, se vuoi abbiamo delle domande. Che oggi è una giornata che tutto il giorno che parlo succede una volta ogni 20 anni. Oh santo, e cosa hai detto tutto il giorno? Se vuoi faccio la cultura. Ho deciso di scrivere un libro. Mamma mia, scoop. Questo libro si intitolerà Vivere con una prof durante la didattica digitale. Ai. Ma la prof è a tiro di... cioè è sotto mano? Possiamo... Ragazzi, sono abbandonati a loro stessi. Vero. Ci sono sti DS, sì. È uguale. Sti direttori scolastici che dicono ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Cioè, questo ministro non ha detto niente. Cioè, poi non ne parlo diffusamente perché comunque sia sono cose loro, io... Non mi permetto perché comunque sia, cioè, ascolti. È il loro lavoro, però il sentore che ho è proprio che questa gente veramente, quando li senti in queste condizioni dici, per lo sbatto che si fanno, cioè, siamo contenti di pagare le tasse, poi la gente che dà lo stipendio, ma abbandonati a loro stessi da un ministro che deve andare... dall'estetista, non deve prendere 20 consulenti incapaci e dare delle direttive che voi fate così, poi vai a analizzare i punti, i problemi e dici e qua come facciamo, e lì come facciamo, e di là come facciamo, e su come facciamo ore e ore, per dire le riunioni dovrebbero essere di un'ora, di collegamento in streaming, cioè 2 ore e mezza, 3 ore, cioè questi che si rodono il cervello per capire come cazzo fare. E dall'altra parte le video lezioni con i ragazzi durano sempre di più, perché comunque sia è il momento proprio di scambio umano, è l'unico che hanno, è l'unico che hanno ed è molto bello. Poi c'è questa cosa mostruosa che come valutare la didattica digitale rispetto al loro curriculum, delle cose che dici madonna mia, ma che roba. E qua siamo in una situazione dove comunque sia sono tutti a un tiro di schioppo, si possono scambiare dei numeri di telefono tra una mamma e una prof, fanno i colloqui via Skype come il ricevimento parenti di una volta, cioè si sbattono di brutto, nel senso, per quello che vedo io, cioè il lavoro che facevano prima più il lavoro a casa, essendo il soggetto che voi ben conoscete una persona seria e che fa bene il suo lavoro. Lei sì, la professoressa Gella è una brava persona. Averne di professori così, esatto. Veramente, proprio, oggettivamente, lei lavora tutto quello che lavorava prima, in più tutto il resto, nel senso che si attacca al computer quando gli va bene, cioè a volte la mattina alle 8 che c'hanno le riunioni, poi alle 11, dalle 12 c'hanno le lezioni, poi deve correggere i compiti e poi la chiama la mamma di quello che con l'asse dell'esame e poi gli manda il messaggio vocale alla lieva, prova, non sto bene, oggi non riesco a collegarmi, però le ho mandato i compiti, li ho mandati là invece che là, no guarda la fotografia è venuta, ma cioè, ma porco Dio, ma dove cazzo siamo? Mica, è arrivata. I racconti di una mia amica insegnante. Scusate, ti giuro, gli stessi, so no? È che noi siamo, trasmettiamo queste cose, è un canale di comunicazione. No, è che trasmettiamo al Vaticano. Cultuali. Abbiamo una stazione radio dentro un convento di suore di clausura. Vabbè, scusate sorelle, ma è uno sfogo di un blasfemo. Va bene così, ti vogliamo bene per quello. Ascolta, va, fermati, la Madonna, appunto. Secondo, noi avevamo un tema stasera e il tema era la prima volta che hai sclerato con qualsiasi apparecchio tecnologico. Ma male. Proprio che hai sfondato, non so, il primo volutamente telefono. Qualcosa. Cosa ti è successo? La prima volta che ti ricordi che hai sclerato con un apparecchio tecnologico e hai detto porca... Attenzione, sottolineiamo che apparecchio tecnologico può essere anche un tagliaerba, non per forza uno smartphone. Vabbè, allora possiamo parlare di trattori e di frese. Assolutamente, cioè, sì. Ho spaccato i cieli con le bestemmie, cioè. Sì, non sono bei momenti dove veramente l'uomo nella sua infinita piccolezza, fermato da un pezzo meccanico che hai sto mostro gigantesco, però per quel pezzettino questo mostro è un pezzo di ferro. E ci sono molte coglioni. Un blocco inutile. Un pezzo, sì, che sia un blocco di ghisa, un trattore, un John Deere da 120.000 euro, che però c'è quel pernetto del cazzo che non fa toccare il sensore del porca miseria. E allora non va più niente. Allora non va più niente. Maledizione alle schede elettroniche dentro i trattori. Oh, giusto, diciamolo. Sono il cuore del controllo del capitale. Voi siete giovani. Una volta le macchine avevano 6 fusibili, le lampadine, quelli che accendi sigle, 6 fusibili, quelli da 2 ampere, cioè proprio delle robe. Adesso veramente la guardi male, la macchina non parte. Cioè, oh. La guardi quanto male, è vero, la guardi male quanto il doppio. È vero. Cioè, ci sono delle macchine addirittura che mi hanno raccontato che se li dimentichi dentro le chiavi, questi dicono: cazzo, sono le chiavi, chiudo tutto. Però scema di macchina, cioè io le chiavi. Cioè, una volta potevi lasciare sul sedile le macchine, le chiavi, tante da lì. Adesso no, ci chiudono da sole, fanno queste cose così. Cioè, oh. Va bene. Allora, questa cosa te l'abbiamo domandata, ti possiamo fare le ultime 2 domande. Punto primo, che brano di musica vuoi ascoltare adesso? Tu ci dici qualsiasi. Voglio ascoltare Duality degli Slipknot. Bellissimo. Allora, forse noi ce l'abbiamo. Guai se non ce l'avete. A questo punto, io mi devi dire un'altra cosa. Noi abbiamo questa abitudine qua. Adesso mi devi dire 2 persone che vuoi che chiamiamo al telefono. Se non abbiamo i numeri, ce li dai tu, con i mezzi che puoi. Noi le chiamiamo dopo di te e faremo le stesse domande. Andiamo così all'infinito, fino a che chiamiamo tutto il mondo. Ah. Allora, io... se vuoi chiamare la professoressa Gella, va bene. Vai. Chiamiamo professoressa Gella. La logorrea può scorrere a fiumi. Ok. Quindi non è un problema. E poi... fammi pensare. chiunque, se mi vuoi mandare anche il numero del tuo acerrimo nemico, poi me lo mandi. Esatto, siamo scoprirò anche il mio numero di telefono. Ma ecco, siamo molto delicati. Un numero di orso, non so. Ti mando, posso mandarti il numero di qualche pezzo di merda che lo maltrattate? Vai, non c'è nessun problema, saremo duri, inflessibili e cattivi. Finalmente sì, è arrivato il momento di prenderci quello che meritiamo, esatto. Gli insulti. Esatto. Gli insulti, sì. Bene ragazzi, a questo dai, punto posso vai, mi mandi il numero via messaggio, noi facciamo partire gli Slipknot, te li puoi ascoltare. Ascoltaci Camillo. Accendendola al computer, perché la radio sai è un po' difficile, vai su Facebook e ci trovi come Radio ZM, se no, il nostro dominio è impossibile da trovare. No, sul nostro bellissimo sito avanti. Di ZAM. La Claudia avanti sul Mac. C'è proprio l'icona vostra che Madonna. Non vi dico affezionati. Madonna. Va bene, caro. Noi andiamo, ci ascoltiamo la tua canzone. Grazie Camillo. Ciao Camillo. Ci vediamo presto, ciao, mi sa. Un bacione a tutti, vi abbraccio. Grazie. Ciao. Duality degli Slipknot proposta da Camillo. Sono cresciuto con questo brano. E via, ci ascoltiamo. We'll be right back. Ciao mamma. Olè. Era anche l'ora che mi ascoltasse. 6 mesi che trasmettiamo, non ci siete mai una volta ma che ma non lo ascoltare, ma fatti i fatti tuoi, ma cosa vuole questo qua, ma pensa a te. Che poi tanto io posso dire santo ciao mamma perché non ho mai chiamato mia madre in un'altra maniera. Mi verrebbe stranissimo dire ciao Antonella. Però tu puoi farlo. Ciao Antonella, oh, io sono Lorenzo. Ciao mia mamma, oh, lo sapevo, lo sapevo. Porta rispetto. Scontato, no, ma lei che te lo dice, lei che ha sempre preteso il lei dai miei amici. Prego, ora si chiama Silvia. Ah. Ora a questo punto mia madre va a comprendere che ha un figlio idiota, che mi ha dato un programma idiota con suo amico un po' meno idiota. Però che ci prova. Però che ci prova a essere idiota. E il tema sto di oggi... ispirazione. È bellissimo. Ci provo. Vai. Almeno tu Silvia. La mattina. Faccia. Rispondici. Ti prego. Ma cos'è successo oggi veramente? Niente. No. E bentornata ciao, su Radio ZM. Ma di Radio ZM. Ma sì, ciao. Oh. Oh, ma quante confidence Silvia. Sarà un mese che non ci sentiamo. Madonna, hai visto? Madonna. Mi mancate molto, amici. C'è anche Daccio. Tu. Oh, ciao bella. Daccio. Ciao Daccio. Bella. Ascolta Dario, dato che siamo dato che siamo noi e le 7 persone che ci ascoltano, dico questa cosa. Così tante? Ho messo oggi una piastrella, tu a mettere poi l'attacco del rubinetto, devi andare tipo dentro una spanna al muro. Sei contento, vero? Sei bello, contentissimo. Eh? Metto le prolunghe, non c'è bravo. Problema. Oh. Così mi piace, metti le prolunghe. Ci piacciono le prolunghe perché oggi parliamo di tecnologia, giovani e giovane. Ma prima volevo chiedere. Madonna. Cosa? Cosa? No, dico Madonna. Esatto. No, ma va tutto bene, è una domanda bellissima, non ti preoccupare. Però prima, giustamente, Lorenzo ricordava che da un mese che non ci sentiamo. Silvia, tu sei la nostra referente dal corvetto. Voi siete la nostra coppia dal corvetto. Ma prima volevo chiederti, in questo mese quante pagine di tesi hai scritto? Siamo arrivati alle 1600, 1700? No, sono ancora ferma alle 110 perché oggi oggi ho inviato il progetto del mio ultimo esame di comunicazione interculturale. Attenzione. E così ho finito, in teoria, poi vedremo quando mi darà il voto, ho finito gli esami della magistrale. Oh mio Dio! E vai! Mica stappiamo lo champagne qui stasera. Grande Silvia. Complimenti. Ci proviamo. Brava, ma adesso allora Lorenzo ti andrà a industriare la prima domanda di oggi. Industrializzo questa domanda. Vai. Chiedendovi a tutti e due, perché vogliamo due risposte ben distinte. Quando okay. È stata la prima volta che vi siete arrabbiati male e avete picchiato fisicamente un oggetto tecnologico? Oddio. Ma male male. Quella TV che non si accendeva, il registratore che non il funzionava, il telefono che è scaraventato per terra. Abbiamo anche sì, appurato. Sì, minchia, il telefono sì, l'ho lanciato un sacco di volte contro. No, un sacco di volte no, una volta contro il muro. E ne compra uno l'anno. Particolarmente. Ha varato sentito. Una nave. Tirata contro un trasatlantico. No, non so quanto tempo fa. Boh. Oddio, tu amo. Io più di 20 anni fa. Attenzione, attenzione. Il joystick è per il PC. Eccolo! Cosa gli hai fatto, Dario? Diccelo. A noi puoi dircelo. Staccato contro lo schermo. Quindi hai spaccato anche lo schermo, probabilmente. No, perché erano quegli schermi vecchi, quelli con tubo catodico indistruttibile. Quelli che se li tiri nella testata ti spaccavi la testa. Esatto. E qual era il gioco in questione? Perché ti sei innervosito così tanto? Beh, non me lo ricordo, ho in mente la scena di io che lo prendo e lo continuo a tirare a ripetizione sullo schermo, ma non ricordo bene il gioco. Ora Driver, molto probabile, o Carmageddon, peggio ancora, giochi per il computer. Ma 6 anni giocava a Carmageddon? Vabbè sì. Che Dario effettivamente ha avuto un'impazza difficile. Guarda come è venuto su. Ho detto dei titoli apposta. Avevo 8 anni, sì. Ma ascoltateci a questo punto, vi facciamo la seconda domanda di 3. La seconda domanda è cosa volete ascoltare adesso? Allora, cosa vogliamo ascoltare adesso? Oh, ce l'ho io. Ce l'hai? Ce l'ho Dario. Vai. Gogol bordello. Gogol bordello, qualcosa ce l'ho? No, non è vero, non ce l'abbiamo. Quindi mi devi dire quale traccia del Gogol bordello e poi verrai intrattenuto da Lorenzo. Assolutamente, assolutamente. Adesso non vorrei scannare il titolo. Cos'è? Tipo mai compagnero? Una roba così. Vabbè, inizia a scrivere M. Eccola lì. Mai compagnera. Mai compagnera, Ma la stai dedicando a qualcuno? Oh mio Dio, del romanticismo! Oh mio Dio, romanticismo! A zona rossa un sacco di romanticismo. Datevi dei baci, dai. Che carini, voi che potete. In realtà In realtà l'ha dedicata a tutti voi, a tutti gli ascoltatori della radio. Ma non però anch'io ascolto la radio, quindi anche a me direttamente. Che carino. Grazie, Daccio. Aspetta, colleghiamoci alla radio anche io. Sì, ma io ci impiego 2 secondi. Aspetta, dai, lei ci impiega 2 secondi, Dario. Stai tranquillo. Cosa avrei voluto dire? C'è un scambio strano. Che cosa? Niente, niente. Nulla, Silvia. Si parlava di altro. Sai che è successa questa cosa, guarda? Ma tu chiudila, perché non è bella. Ma come faccio a chiuderla? È tanto il download è in alto. No, scusate, problemi tecnici, esatto. In realtà noi siamo già pronti. Siamo già pronti? È pronta la traccia? No, da qui non lo fa, ok. Da qui non lo fa, lo fa. Ragazzi, aspetto, breve ma intenso. Ultima domanda. Vai. Chi chiamare dopo? Diteci chi chiamare dopo. 2 persone almeno, per favore. Adesso direi dei nomi che abbiamo già chiamato, non ha risposto, ne ci potremmo giustamente incazzare. Chiamate Jerry. Oh mio Dio! Ma che bomba! Silvia, io avevo già stima, però queste cose quando le dici poi più stima. Esatto, e poi il Jolly, se non rispondesse? Se non rispondesse non lo so. Mi devi mandare il numero. Sì, poi arriva il numero di Jerry. Ma poi lo chiamiamo anche su Facebook. Risponde a qualsiasi cosa. Mi ha chiamato l'altro giorno con Facebook. Sì, dici, anche a me prima mi ha videochiamato. Ma gli ho messo giusto. Stavo guardando un documentario. Che documentario? Un documentario sulla comunicazione interculturale. Dai, chiamava lei studia sì, Toya Brown, mi pare che si chiami. Che è una ragazza che nel Tennessee è stata incarcerata a 16 anni in un carcere minorile per aver ucciso un suo carnefice, e poi è uscita chiedendo la grazia dopo un tot di anni, 13. Dopo 13 anni. Vabbè, no, un po' pesante, cioè bello, però no? Cioè, se cercate Toya Brown vedrete la sua storia. Va bene. Però quindi c'è Jerry, seconda scelta? E Dario diceva la Butch. Ma lei è l'ospite, è l'ospita. È l'ospita. Che è la punta dell'iceberg di Zona Rossa che si scioglie. Sì? Dario ce l'ha. Vai. Sharby. Oh, attenzione. Anche lui mai chiamato, se non sbaglio. Giustissimo. Va bene. E go. Google bordello, andare. Tutti per voi. E grazie ragazzi e ragazze. Grazie a tutti. Ciao, ne. Ciao. We step together in the river. We trade a fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my sonidera? I surrender, I had to tear it off my mind. Then hypothermia took over, and suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from down to down. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. My final down. Eat and sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Where are you now, Su. Ah, eravamo su. Adesso sì. Adesso appena sì. Appena acceso. Tanto ci promettono giustamente che ci manderanno il numero di Jerry e vediamo se arriva. Nel frattempo notiamo che un caro compagno qui con noi ha un cappellino nuovo veramente fantastico. Ma caneggiante. Veramente, veramente sexy. Prego, cosa prego. Poi arriveranno foto più tardi, grazie. E Zona Rossa, Radio ZM, 20:12, se gli occhiali non mi mentono. Bentornati e bentornate, ricordatevi di iscrivere alla bellissima chat Telegram Radio Zam trattino basso chat e intanto ci prestiamo a telefonare alla magnifica, incredibile, spumeggiantissima, bellissima, super affascinante, intelligentissima e chi più ne ha più ne metta, che non ci risponde, che si veste bene, che chiamato, è intelligente, ha una bella voce, delle belle idee, terribile, indipendente, basta, gente così non capisce, non va bene. Ma noi possiamo devo dire che io l'ho chiamata 3 giorni fa e non mi ha ancora richiamato. Cioè, ma mi ha richiamato, però se poi non risponde al telefono, adesso quando io sarò al telefono con qualcun altro, vedrai che mi richiamerà. Oh, chiamiamo un numero che volevo chiamare da un sacco di tempo, lo chiamiamo con una scusa banale, cioè quella della zona rossa. Banalissima, però succede. Lui è un gran compagno, sta a Gallaratese, l'abbiamo visto parlare con dei problemi tecnici imbarazzanti al talk delle brigate. Che ora oh mio Dio, ho capito. Malamente proprio. Mi si vedeva la manona? Sì, no. Quello è Gimma. Ok. Gimma, questo è un altro. Però possiamo chiamare anche lui. Possiamo chiamare anche lui. Chiamiamo tutti quelli che hanno partecipato. Poi sai chi chiamiamo? Vai. Quella che c'aveva gli occhiali di merda. Vai, che storia! Vai, alla fine abbiamo trovato la nostra strada anche stasera. Anche Jacopo se ne sta andando... Ragazzi, molto ma tristemente ma, come ma una palla di fieno che gira nel far west. Ma nessuno mangia la menta alle 20:15. Io in questo momento anni. Mangerei se potessi. Vabbè, ma tu hai un problema, però. Io ho un problema perché tre minuti fa ho mangiato 4 pacchetti di cracker in fila. Cioè, perché poi tanto diteci problema... voi se 4 pacchetti di cracker in fila fanno male o no. Secondo me, no, dato che sono ancora qua. Guglielmo non è soddisfatto della puntata di oggi. No, la gente non risponde, non collabora, non possiamo fare. Ma abbiamo detto che chiamavamo gli occhiali brutti. Poi ci arriviamo. Aspetti, non sono così brutti dopo tutto. Gli danno un altro. Guarda, quelli che scelgo io rispondono. Adesso vedi, questo qua non risponde. Non risponde nemmeno lui. Che palle, oh. Minga, fra, ma come facciamo? Che poi come fai a tirare su una trasmissione di telefonate se vabbè, la gente non risponde comunque, al telefono? Io intanto vi trattengo come sempre, che non è un problema dire cose a caso in questo programma. Vi ricordo la nuova campagna pubblicitaria di Zona Rossa, che è fare una foto in macro di una parte del vostro corpo che più reputate Zona Rossa. Io l'ho trovata, per esempio, il mio brufolo sull'occhio sinistro. Quello per me è Zona Rossa. Guglielmo al monociglio. Scattate perché le fotocamere dei vostri nuovi cellulari sono sicuro che fanno la funzione macro. No. Sì, sono povero, no, ma il problema è che ho un numero di questa persona, un numero vecchio. Come faccio io? Degli occhiali brutti? Sì. Ah, ma chiamala su WhatsApp. Ma su WhatsApp se non c'ho il numero? Ma ce l'abbiamo da Telegram. Ce l'abbiamo da Telegram. Perché c'ha scritto alla chat della radio. E quindi tu poi stai ammettendo che puoi tranquillamente prendere i numeri dalla gente. No, ma vai, contatti. È un contatto. Così. Esatto. Sei fortissimo. Tu non stai prendendo un numero, stai prendendo un contatto. Ho capito. Usa le parole giuste. Vedrai che andrai avanti. O devi evitare che io dica il numero di telefono ad alta voce in radio. Continua a parlare. Quindi, appunto, giusto per sottolineare questa nuova bellissima... Madonna, ma aspetta, ma zio, ma è catalifrangente. Cosa sta succedendo? No, perché dalla regia ci arrivano pure... Il numero chiamato è inesistente. Bravo, Guglielmo. Benone, direi. Giustamente. Quindi stiamo facendo delle prove tecnico-flash scientifiche. Se voi... Cioè, la foto che mi è appena stata fatta vedere è palesemente zona rossa. È indubbiamente zona rossa. Una foto in macro di un dettaglio del vostro outfit, del vostro corpo, della vostra anima. Che visto nella sua interezza, insieme al resto del corpo, non sarebbe zona rossa. Ma magari quel dettaglio è proprio un po' creepy. Cioè, quell'unghia del piede che magari non scompare fate, guardando non, il piede. Non fate, guardando il dito. Non fate brutto. Quella foto dove vi si vede, cioè, che si capisce chi siete. Non ci interessa l'individualismo, non ci interessano. A noi interessano le zone rosse. E per zona rossa. Vedrete la campagna nuova che abbiamo deciso di affrontare fra qualche giorno col contributo del nostro compagno Yaffington alla fotografia e col contributo del nostro compagno Chico al pranzo. Ma ragazzi, ma cioè oggi siamo in che posto siamo finiti? Non ci risponde nessuno. Niente. Nemmeno quelli che hai proposto tu, diciamolo. In tutto questo abbiamo ancora 45 lunghissimi minuti prima dell'arrivo del primo ospite di questa sera. rendetevi conto di come questi 45 minuti e oltre vengono riempiti. Potrebbero essere lunghissimi. Dalla vostra simpatia, dalla vostra gogliardia. Quindi rispondete, porco Dio, perché... Bravo, hai capito perfettamente qual era lo spirito. Ma mi hanno scritto, mi hai chiamato? Io loro richiamo, perché sì, allora, ti ho chiamato, sì. T'ho chiamato. Mimmo, ci porti del cibo? No, non mi rispondo. Un cracker, qualcosa, grazie. Una sogliola, sì. Un peperone ripieno. Fergi. Qualcosa, niente, basta. Secondo me niente, mettiamo basta. Un po' di musica. Allora, Guglielmo, abbiamo stanno, una serenata di Wolfgang. Stanno, oh, però, Gimma! Benvenuto su Radio ZM! Grazie mille. Ciao, caro. Tu lo sai che sei da poco stato di nuovo qui sui nostri microfoni e sulle nostre ondulatissime frequenze, perché ti abbiamo ripreso mentre facevi il talk delle brigate e parlavamo male del fatto che tu avevi la mano davanti alla telecamera, avevi una manona gigante. Era bella però, Sì, perché stavo al computer e certo. Il telefono mi... certo. Certo. Quindi... Era evidente comunque con cosa. Senza il vostro consenso noi mercoledì scorso abbiamo mandato in onda la bellissima talk che c'è stata, volevamo chiederti appunto delle cattiverie. Quello che tu pensi di cattivo ce lo puoi dire. Questo è un momento di sfogo. Vogliamo, che non hai potuto dire nel talk. Vogliamo che sia un momento di sfogo, quindi esprimiti. Di gossip. Ma l'hai detto tu. L'hai detto tu. L'hai detto tu. No, ma datemi un argomento, datemi un... Dai, te lo dico io, ti dico... Dave, dai. Dave, no. Dai, ti do io un argomento. Dave, dai, parlaci di Dave. Gossip Dave, dici qualcosa di cattivo su Dave. Dai, è facile. Dai. Beh, ma quanto tempo ho, giusto per capire? 7-8 giorni, se vuoi, tranquillo. Ok, allora parto dal 92, quando è nato. Mamma mia, che brutto momento che è stato per il mondo. Poi chiamiamo anche lui, non ti preoccupare, quindi gli chiederemo la stessa cosa su di te. Mi metterò a ascoltare, maledetti. Va bene, caro, ma allora volevamo chiederti in realtà una cosa semiseria. Stasera la puntata è dedicata alla tecnologia e quindi Lorenzo ti va a porre la domanda. Tieni conto che tu non ci conosci, giustamente, ma questo è il programma. A me mi conosce perché sono la persona vera anche nel mondo reale. Come sei tu Guglielmo. Che non esisti, Lorenzo. A parte il brutto individuo che è Guglielmo come persona, che mi dispiace tu conosca. Mi spiace anche a me. Ma questo programma fondamentalmente è un programma di idiozia. Sì. Cerchiamo di essere proprio il fondo del barile del collettivo. Lo fate bene. Grazie, grazie. Grazie. Essere riconosciuti. Quindi, è importante. Dopo questa premessa, mi sono presentato. Mi ha fatto piacere molto. Ti chiedo, scava nella tua memoria e raccontaci quando è stato il primo momento in cui hai malmenato brutalmente un oggetto tecnologico. Con sotto Mozart. Facciamolo sentire mentre Gimma ci riflette. Cazzo, ma è difficile. Questo è Gimma che sta riflettendo. Ma è che io non sono mai andato d'accordo con, cioè, con gli appunto, oggetti tecnologici. Appunto. Io ho avuto il primo televisore a 21 anni. No, 23, 24. C'è gente anni. Che ancora non ce l'ha. Esatto. Non hai picchiato mai un telefono. No, questo non è stato, sì, ma... Sì, i telefoni ne ho rotti, ma questo qui non è stato malmenato, è stato un pochino più cinica come cosa. Un cellulare quando andavo la vacanza per la terza, la prima superiore, in Sardegna, con gli amici lì, per conoscere la gente. Volevo far sentire questa canzone, ma siamo nel 2008, quindi non è che c'erano come oggi telefoni amplificati, quindi per amplificare questo telefono l'ho messo in una brocca. Sì. Per ampliare, solo che la blocca era piena d'acqua e quindi esso è lentamente annegato. No! Quindi non è stato malmenato, non è una cosa violenta, è molto... Sai che sei tu un hai genio. Affogato, tu hai affogato il tuo telefono volontariamente. Sai che sei un genio perché ci hai dato il là per ampliare questa domanda e rivolgerla in questo modo. Quando è stata la prima volta che hai malmenato, distrutto o danneggiato un oggetto volontariamente o meno? Questo non era volontariamente. Appunto, per questo hai sdoganato questo argomento. Infatti. Grazie mille. Il tuo contributo per Zona Rossa è stato molto importante. Prossima domanda. Posso fare dei saluti? No, aspetta. Ma tu, ascolta. Noi sappiamo che vuoi salutare Dave. C'è Guglielmo che ha un'altra domanda. Allora, abbiamo messi due domande. La prima domanda è: chi vuoi che andiamo a infastidire adesso, dopo di te? Questa è bella. Lo sappiamo. Caspita, questo è bello, non lo so. Gli faremo le stesse identiche domande? Dai, una risposta per forza deve essere lui. Tanto non l'abbiamo mai chiamato. No, non l'abbiamo mai chiamato. Io ci tengo molto. Ma è troppo male, non lo so. Non lo sa. Ci penso, dai, se mi viene in mente ci penso. Intanto segniamo Dave, comunque. Dai, comunque noi segniamo Dave. Ma vabbè, qualcun altro che c'era al talk delle brigate che vuoi infastidire? E dai. Tanta gente. Ci possiamo infastidire? Bah, io andrei su quel simpaticone del torchiera, dai, è andata, evviva. Si intende Paolo? Perché forse dovrei avere il numero. Fammi controllare subito, se no mi devi dare il numero tu. Va benissimo. Sai che no, mi devi dare il numero tu, perché mi sa che l'ho allora, perso. Qua in diretta. No, mandami un messaggio su WhatsApp, no, dai. No, ma non in diretta con un gioco tecnologico. Ah, oh, certo, perfetto. Madonna, perfetto. Sei avanti. Va bene, l'altra domanda invece è questa. Mi devi dare un brano che vuoi ascoltare ora. Un brano. Allora scelgo gli Street Dogs. Come? Come? Street Dogs. Dogs. E la domanda è? Cioè, la canzone? La domanda è, Madonna, come la domanda è come si chiama la canzone? Free, ce l'abbiamo. Trovata. Free degli Street Dogs. E fantastico. Quindi, grazie per aver ampliato la domanda geniale e super complicata che poniamo stasera. Quindi Guglielmo intanto sta mettendo un sacco di porno sul computer. È ufficiale, radio. Adesso quando apriamo questo programma fantastico per ottenere la musica ci si apre di fianco la paginina, vuoi vedere i porno? Esatto, e tutti sapranno problema. Cosa faremo. Quindi ora puoi fare i tuoi saluti. Ok, no, niente, voglio salutare Mike Buongiorno che mi ha ispirato nella mia crescita e molto... Ma... Dice, ma è vero quello che si dice che Mike Buongiorno ce l'abbiamo noi? Noi chi? Noi, quello dai, quel famoso coro. Ce l'abbiamo noi, Mike Buongiorno, ce l'abbiamo noi. No, secondo me è vero. Senti, invece, io mi spiace funestare il clima di leggerezza che abbiamo, ma c'è una cosa di cui bisogna parlare perché è successa in questi giorni. E te la pongo così la domanda perché sono sicuro che la risposta sarà lapidaria. Ma tu... Alla gente che rompe i coglioni per quanti soldi hanno speso per salvare Silvia Romano, cosa rispondi? Guarda, che non sono... No, ma sono rimasto... No, su scherzi a parte, quello che in serio. Lo stiamo qua del riscatto, io molto che in volta ha fatto incassare anche me. Cioè, 4 milioni, ma cosa sono 4 milioni? Cioè, con Doug Black è stato 40 milioni all'Inter. Allora, Silvia Romano varrà un pochino più di Codobia o no? Direi abbastanza sì. Ecco, allora io avrei rifiutato. No, guarda, per 4 milioni non so. Grande Jim. Peluso è andato alla Juventus per una cifra simile, ma allora Peluso, no. Doveva andare a pagare di più. Va bene, grande Jim, complimenti per la risposta. Street Dogs Free e ci risentiremo. Grazie mille, ciao. Bello. Ciao. Ciao. Lost some rounds, been knocked around, felt my share of defeat. Yet somehow I've always managed to get back on my feet. The world keeps telling me to get a grip or I won't last. Gotta break away from solitude and let go of my past. I've never found it easy to change my stubborn ways or to gain perspective, throw away those soulless days. We have struggled, we have prayed, we're still searching for something more. We have struggled, we still pray, we're looking for the chance to be free. Our music is a shelter where we know we're not alone. We sing the words of our favorite songs. They bring us home. We find a little comfort, a little peace of mind. Say goodbye to being left out. Hello, friend, please come on in. We have struggled. We have prayed. We're still searching for something more. We have struggled. We still pray, we're looking for the chance to be free. Go slow, young. All of my life I have searched for clarity. I have wrestled with the demons inside me. We have struggled, we have prayed, we're still searching for something more. We have struggled, we still pray, we're looking for the chance to be free. Attenzione, attenzione. Finalmente, rifocillati da una persona che ci ha risposto al telefono. Esatto. Possiamo continuare. Ci voleva, perché le segreterie dopo un po' stufano, nonostante noi siamo sempre in stretto contatto con Infostrada e con tutta la sua voce bella, sua dente. Grandi amici di segreterie noi. Vi ricordiamo che qua tutto si regge abbastanza bene, nel senso che i problemi tecnici, io mi scuso per le migliaia di persone che nella fascia oraria tra le 5 della mattina e le 8 vogliono ascoltare la radio e non riescono. Io mi scuso, cercherò di fare di tutto per risolvere questi. Ciao Paolo! Ciao Paolo! Mi puntano le corna! Hai visto? Attenzione! Che brutte cose! Di che brutte cose parli tu? Veramente terribili! Ma no, perché Gima mi ha appena detto: oh, guarda che c'è Gulli che ti vuole chiamare. Ho detto: Gulli, ma chiama. Ma Gulli chi? Ma hai chiamato? Ma comunque non ti sta chiamando Guglielmo, che è una persona orrenda, ma ti sta chiamando Zona Rossa da Radio ZM. Sei in diretta nazionale, se non grazie, mondiale. Amiche. Belle figure mi fate fare. Ciao a tutti, ragazzi. No. Sei in mutande? No, però esordisco con le corna e con le cose, ma tutto a posto, le corna sono antisfiga. Ma esatto, sì, esatto, ma no, sei nel programma giusto, non ti preoccupare. Ma ci siamo. Esatto, ma ascolta un secondo, come vai a Torchiera? State facendo una bella doccia? Ah, no, scusa. Scusa, non c'è. Ma guarda che sì, no, ma guarda che questa cosa è una diceria. Negli ultimi giorni c'è un sacco d'acqua. Se vai fanno un giro. L'avete portata voi? L'avete portata voi perché è arrivata fino a qua l'acqua vostra. Sì, pieno d'acqua. Se vuoi ti mando un paio di foto, però via radio non si possono vedere. Non si riesce, però se vuoi possiamo pubblicarle su Facebook. Però puoi mandarla alla chat di Telegram della radio. Esatto. Va bene, se me la girate poi io ve le mando le foto. Ma mi usi Telegram, Paolo? Sei moderno? Sei tecnologico? Telegram, certo, no, come che ti comunichi con le brigate, che qua è tutto telegrammato. Addirittura, noi abbiamo un gruppo WhatsApp, siamo più antica. E beh, così. È così. E quindi, giusto appunto, la puntata di oggi, è ovviamente una puntata proprio a braccio, così tu non ti preoccupare, è dedicata alla tecnologia. Avremo una serie di domande da farti, con o senza il tuo consenso. Vai, io sono sempre sul pezzo tecnologico. Allora, non c'è problema. La prima domanda è: devi concentrarti molto, devi scavare. Aspetta, tanto. C'è una domanda, ce l'ho anch'io poi, eh. Allora, quindi non lo facciamo un video, gente, Paolo, non lo facciamo un video, basta. Abbiamo la gente che fa le domande ai conduttori radiofonici, giusto. Quindi, incredibile. Prima domanda. Scava bene nella tua memoria e raccontaci la prima volta che hai distrutto volontariamente o meno un oggetto tecnologico. Che l'hai spaccato male con violenza o che ti è finito da qualche parte e si è rotto? Guarda, casa a pennello, cioè stavamo parlando di acqua, Torchiera senza acqua, giorni piovosi, mi ricordo che tipo 3, 4, 5, potrebbe essere anche 6 anni fa, no, più di 5 no, apro la portiera della macchina, piove a dirotto e mi esce il cellulare e finisce proprio dentro una pozzanghera. Marrone, andato, morto. No, non era marrone, era anche acqua pulita, però niente, non c'è stato niente. È affogato, è andato. È andato e non è più tornato da lì. Sai che in quei casi si fa, cioè togli subito la batteria, la cura al riso, lo metti nel riso per cercare. Bravo, bravo, esatto. 24 ore al riso, lo butti nel microonde, niente da fare. Nulla, no. Non è più stato con noi. Ma con annessa perdita di dati, messaggi, numeri, tutto? O sei riuscito a riprendere qualcosa? mi chiedi troppo, non ricordo. Però... Guglielmo, chiedi troppo. E invece, però... dici tu la domanda. La domanda era, dove lo trovo il podcast? Bravo, Madonna, bravo. Quanto è bravo questo podcast. Allora, ci sono svariati modi, ti dico il più semplice, sul sito di ZAM. Devi scrivere ZAM Milano sul noto motore di ricerca che non faremo. Sto prendendo appunti, eh. www.zam-alto-milano.it. E lì c'è una sezione dedicata alla radio e c'è una scheda che si chiama proprio podcast. Abbi pazienza, quelli che, per esempio quello di oggi sarà su fra 2 o 3 giorni. Però c'è lo storico. Se vuoi, ti rimanda a un canale archive. Puoi ascoltarli sul sito, altrimenti c'è proprio il canale archive. Però è più comodo dal sito, secondo me. Facci sapere, mi raccomando, se riesci a sentirli tutti, se tutto funziona, perché è tutto autogestito, auto-organizzato, autoprogrammato e tante belle cose. Li provo tutti. Ma dove siete? Proprio a ZAM in diretta voi? Yes. Esattamente, c'è una radio fisica. Dai popolosi studi di ZAM. Un giorno dovrò venire a vederla in diretta, allora. Intanto poi vai su tutti i social, Radio ZAM, trovi anche le foto, così vedi com'è. È proprio carina. Grandissimi ragazzi. Ma senti, a questo punto invece ti facciamo una domanda in più, perché certo. Sei simpaticissimo. Ma dai, allora, qui non siamo al tocco delle brigate, non c'è più quest'aria da finta cortesia. Puoi dirci veramente, veramente, veramente una cosa. Chi è che vince il campionato quest'anno? Parli del campionato popolare? Sì. Ma come? Non l'hai saputo? No, è successo. Ma come no? È successo. Cazzo. No, che ieri abbiamo fatto uscire un comunicato. Ieri abbiamo fatto un'assemblea e oggi è uscito il comunicato che il campionato popolare è interrotto, ragazzi. No. Causa. Sì. Siccome noi non viviamo i miliardi, il vero valore dello sport popolare non è quello di muovere i miliardi. Bravo. Ma ci teniamo a far giocare la gente quando si può giocare come vogliamo noi, non con gli stadi chiusi, in sicurezza, i pupazzi di cartone, in sicurezza e senza rinunciare a niente tutte le nostre. Spiriti avventurieri di assembramento li vogliamo riproporre giusto prima oggi, soprattutto perché il collettivo dei portuali oggi ha fatto un bello striscione dicendo la gente muore, voi pensate a riaprire il campionato perché è quello, perché è quello, sono i soldi di merda. Ma no, ma più che altro perché la questione Trovate un po' brillo perché mi sto bevendo una birretta, però quindi questa cosa aiuta anche a sciogliere la lingua. Però uscendo dalla parte un po' più scherzosa, invece trovo un po' allucinante questa cosa che escano notizie che fanno giocare i campionati di sera a porte chiuse, quindi ma certo che è allucinante, ci saranno persone e soprattutto dicono che se ci sarà un contagiato la squadra va in quarantena, quindi voglio capire cosa faranno. Poi una squadra in quarantena cosa fa? Perdere giornate, fa giocare la primavera. Come rete mediterranea antirazzista abbiamo deciso di, purtroppo, che dispiace a tutti, però interrompere il campionato per quest'anno e vedere di fare qualcosa se si può più avanti. Certo. Però appunto senza rinunciare ai nostri, tutti i nostri momenti comunitari e collettivi. Cioè che cazzo vai a giocare a calcio se non puoi abbracciarti o prendere a spintoni a sputarti l'altro quando ti fa un gol e quando non te l'aspetti. Anche no, perché la partita di calcio Torchierese Brigata Dax ha un contatto fisico praticamente del 100% della partita, prima ma anche dopo, tra le tifoserie, con l'arbitro, è un contatto fisico continuo. Sì, cosa ci vuoi fare? Ma no, loro sono troppo violenti, ci venerebbero di brutto. Brigata Dax è stata la squadra più violenta di tutta Milano. No, stiamo scherzando, dai. Però il derby è col Barondini. Ah sì, è Torchiere Baronda? Torchiere Baronda? Anzi, non lo sapevo questo. Io non so perché mi ricordavo le partite accese col Boccaccio. Ma infatti, ma col Boccaccio, però Boccaccio, no, più Baraonda. Infatti il nostro motto è che si vinca che si perda, Baraonda è sempre merda. Riscopriamo quella sana credine tra centri sociali milanesi. Ascolta, a questo punto possiamo chiudere facendoti ultime due domande. La prima, ci devi dire che canzone vuoi ascoltare adesso, qualsiasi canzone non la in troveremo. In questo momento. Rock the Casbah. Ma forse ce l'abbiamo. Forse sì. L'altra cosa che ti dobbiamo chiedere invece è chi vuoi che chiamiamo. Cosa? Se no posso cambiare. No, la troviamo. In qualche maniera la troviamo. Quindi la troveremo di qua. Se di qua non la troviamo. Nel frattempo mi devi dire chi vuoi che andiamo a importunare adesso. Ricordiamo che tu sei stato importunato perché Jim ha fatto il tuo nome. Jim se l'hai cantata. Noi facciamo nomi e cognomi. Esatto. Tu adesso ci dici chi chiamare. Ma deve essere un personaggio conosciuto nell'ambito. Ma sì, facciamo popolari. non so, che lo conosciamo in due, dai, giusto per non andare a finire da persone che magari giustamente dicono: Guglielmo, ma chi è? Ma chi ti vuole sentire? Ma okay, cosa vuoi da me? Poi okay, magari giustamente partono promesse. Ma devo dirlo adesso, qua adesso? Sì, dopo, dacci il nome, se lo conosciamo entrambi, o magari il numero, perché se non abbiamo il numero, avete ti chiediamo di mandarci. Avete già parlato con Simo? Simo, no, bravo, bravo. Chiamiamo Simo. Sì, sì, sì, sì, sì, Simo ce l'ho. Poi un altro, in caso sì, il numero ce l'ho, in caso numero, in caso che Simo fosse occupato, chi chiamiamo? In caso che Simo fosse occupato, potreste chiamare, fammi pensare, Davide. Davide sempre Baraonda. Davide Baraonda. Va bene, di Davide mi sa che non ho il numero, se me lo mandi meglio. Yes, ti mando un messaggio. Grazie mille Paolo. Ciao Rock Paolo, Cashba, ce l'ascoltiamo per te, grazie mille. Se riesco a far dove partire ascolto? Qualcosa. Aspetta, aspetta, aspetta, non mi lascia dimmi dal live. Cosa? Dov'è il live? Ah, per sentarci live. Te lo mandiamo in un messaggio o sul sito di Perfetto, Zam sempre. Te lo mando io per messaggio subitissimo. Bella. Va bene, grazie ciao. Mille. Ciao, ciao ragazzi, buona serata, un abbraccio. Rock the Cashba, Paolo dalla Torchiera e i Clash. Se è urgente dimmi pure qua. Arriviamo, arriviamo, ti arriviamo, qua. Arriviamo. Si chiamava il leader dei Crash? Che pezzone. Si chiamava il leader dei Crash? Coso? Mi ricordo. Non ti ricordi? No, sono troppo impaziente dell'audio che sta per arrivare. Ed ecco a voi. Oh, comunque la sigla di Zona Rossa è praticamente come se fosse la colonna sonora di 007 se fosse interpretato da Pape Roga. Boom! Madonna, madonna, ci arrivano pure questi commenti. Cioè ed arrivano, esplodiamo, ma avete capito? Ma avete capito che commenti arrivano? Comunque la 007 se fosse interpretato da Pape Roga. Quindi noi siamo il programma... Se fosse interpretato da Pape Roga. Siamo un programma proprio... 007 se fosse interpretato da interpretati da Pape Roga. Noi siamo... interpretati da Pape Roga. Interpretato da Pape Roga. Ci piace, ci interpretati piace. Da Pape Roga. Ringraziamo Stefano per questo preziosissimo contributo che afferma di nuovo la nostra. Oh, comunque 07 se fosse interpretato da Pape Roga. Esattamente, esattamente. Stefano, grazie. Stefano, puoi andare, grazie. Come, scusa? Hai detto se fosse interpretata da Pape Roga. Perfetto, Stefano, grazie. Grazie mille, Stefano. Per andare avanti all'infinito devo smettere, che sono troppo idiota. Pensate quando saranno 100 queste Madonna, quote. Pensate Madonna, quando saranno Madonna. 1000, quando saranno 2000, quando saranno 7000, quando saranno 52000, come le views dell'ultimo video del collettivo Zambrani. Oddio! Oddio, 52000! Stiamo arrivando, Fontana, stiamo arrivando. Adesso deponiamo i video, prendiamo i Kalashnikov, pezzo c'è, di c'è, merda. C'è Mentana che ha la pelle d'oca. Bastardo. Per la nostra comunicazione, è incredibile. Ebbene sì, abbiamo imparato a comunicare da quando della brutta gente ha iniziato a frequentare questo luogo e la quarantena ci ha fornito la possibilità di tempo di fare quello che volevamo. Ma adesso andiamo dall'altro direttore per dopo, un altro giornale dopo io sento e parleremo bisogno, con lui. Sento il bisogno di chiamare Stumpio dopo. Dopo ci sta e lo accusiamo di nefandezze che solo lui può aver fatto. Ma buonasera, bentornato a Radio ZM. Direttore. Sto ascoltando il presidente. Presidente chi? Scusa. Scusa se io faccio politica. Ah, hai ragione, almeno tu, almeno tu. Il grande presidente, Giuseppe. Giuseppe, ah, Giuseppe. Ma c'è il papà in televisione. Ma cosa stai dicendo, scusami? Era un discorso programmato o è una roba a caso? Hanno approvato il decretone, cazzo. Che decretone hanno approvato adesso? Quello che si può andare a vedere gli amici lunedì 18? No, su quella roba non lo so, è il decreto economico. Ah, quella cosa che è l'economia. Ma possiamo risentirci, ragazzi? Va bene. Zona Rossa, puoi anche mettere giù il telefono. Ciao Teo, è stato bello. Ciao Teo. Ciao. Ragazzi, cioè, siamo capito. Così avanti che siamo alla trasmissione che gli puoi mettere giù il telefono. Facciamo che dopo mandiamo un pezzo di Conte, dai. No, ma andiamo, no, maledizione, Lorenzo. Dobbiamo essere, vuoi... dobbiamo essere perché vorrei mandare ancora che siamo quelli con la fisica di Pape Roga. Ma adesso lo scarichiamo, lo mettiamo sul computer. Lo scarichiamo, perché un cazzo. Ci quello... il tastino. Siamo quelli chiamati Pape Roga. Grazie, grazie. Oh, comunque, ultimamente Cesa è in gas di brutto. Sta tirando vero. Fuori tante di quelle robe secondo troppo belle, intelligenti, divertenti. Secondo me è la frequentazione di Punch Time. E io spenderei giusto due secondi che per dirvi una cosa, esatto, una cosa molto importante che capiterà domani. Però, stiamo chiamando Stumpio? No, lui è Jacopo. Ciao Jacopo! Bella. Sei in diretta su Radio ZM. Sei in diretta su Radio ZAM. Ciao. Ciao. C'è qualche milione di persone che ti ascolta. Mi raccomando. Sì, infatti sono un po' emozionato, non so se noi con te, noi con te, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Bella raga. Ma senti, ma ci puoi fare un replay dei tuoi problemi tecnici che hai avuto durante il talk delle brigate? C'è un computer vecchiotto, lo sto sovraccaricando in 6 giorni e lui si lamenta. Ma... e quindi... ma come, scusami, tu non sei uno di quei ricchi possidenti di fabbriche che hai fatto in modo che gli operai tornassero a lavorare? Come mai è un computer vecchiotto? No, quelli ti hanno detto di tenertela per te sta cosa. Cioè, ah, hai ragione. Così a tutti, cioè. Poi... scusa. C'ho una faccia da mantenere. È vero, è vero, è vero. E che faccia, che faccia. Sai che, Jacopo, ci sono due cose belle. La prima è che in realtà la tua dolce voce suadente ha già cavalcato le onde di questa radio, perché noi abbiamo brutalmente mandato l'audio del talk delle brigate in diretta radiofonica quel mercoledì da questo programma. Sì. E abbiamo fatto tipo la Jalapas Band di sottofondo. Se vuoi poi ti mandiamo il podcast. Ce n'è per tutti, anche per te, per tutti e tutte. Quindi invece la seconda cosa, che giusto appunto abbiamo citato oggetti tecnologici, ora io faccio una premessa, questo lo ascolterai, lo capirai quando avrai il podcast, questo è il programma più idiota che c'è, quindi non ti preoccupare per qualsiasi risposta idiota che pensi di dover dare. Noi la diamo peggio. Le domande sono super intelligenti, molto mirate, che vanno a indagare quello che è il tuo QI. Che brutta espressione, Lorenzo. Quoziente intellettivo. Ah, il QI, esatto. E quindi ti vado a chiedere, scava nella tua memoria più in fondo che puoi, che potrebbe essere anche l'altro ieri, non è un problema, e dimmi la prima volta che hai sfasciato male un oggetto tecnologico volontariamente o meno. Se vuoi per forza indietro nel tempo, non so. No, minchia, mi sa che non l'ho mai fatto. No, c'è troppo rispetto per la tecnologia. Ma no, ma parto già così di merda. Ma scusatemi, ragazzi. Cioè, no, ma non c'è risposta giusta o sbagliata a questo quesito. No, non mi viene in mente. Ma no, guarda, che noi per attrezzo tecnologico intendiamo. Ho bruciato, non intenzionalmente, ma ho bruciato il mini pimer. No. Provando a fare i nuggets, tra le altre cose. Hai capito? E quindi fuso, motore fuso, sbagliato male. Sì, poi sentivo che usciva un po' di fumo, però non aveva smesso di tritare, quindi ho detto dai, diamogli il colpo di grazia. Giusto così, è giusto che periscano per noi. Maledetti apparecchi tecnologici. Ma allora raccontaci in tre parole come va lì al Galla. Voi siete sempre la nostra stella polare, la gente lavora veramente nel quartiere, quelli lì saranno al Galla. Dici un po' come sta andando. No, va bene, è una bomba, c'è un sacco di gente che sta dando una mano, al di là dei nostri che ovviamente già c'erano, c'è tanta gente che si è buttata dentro, e cioè è bello, sta dando una bellissima risposta al quartiere, la zona, coprendo tutta zona 8, comunque la maggior parte della gente che si è proposta viene dal Gallaratese, da Quarto Giaro, questo... ovviamente fa piacere da vedere, no, bello, ci sta andando da fare, come tutti poi alla fine, questa roba qua, cioè tutti i quartieri di Milano comunque stanno facendo il loro, qua c'è da essere pure, dai, cioè possiamo dire che siamo orgogliosi di essere milanesi, cioè, dai, diciamocelo, certo, siamo un po' pieno di Teroni, però vabbè, insomma... Oh, te lo posso dire perché Lorenzo si è momentaneamente allontanato dal microfono e dalle cuffie, quindi non sente quello che ti dico o che ti dia lui. Allora abbasso il volume così lo senti. E quindi la questione è che, come si dice, io sono abbastanza milanese, anch'io, diciamo che sono milanese da una generazione e mezza, ma lui viene dalla provincia di Novara. Ma uno può fare una trasmissione a Milano con uno che viene dalla provincia di Novara, Jacopo? Dai. Da provincia di Novara, sì. Storicamente sono lombardi, no? Si sono sempre rivendicati la Lombardità. Ah sì? Dalla provincia Fanculo di Novara Guglielmo. Siete una succursale della Lombardia? Assolutamente sì. Però siete in Piemonte, cosa è successo? Ma siamo sul confine. Siete dei confinati. Sì. Va bene, Jacopo, allora... Grazie Jacopo per avermi salvato in corner. Esatto, ti ringraziamo. Da questo nonnismo che io subisco nonnismo tutti i giorni, lo ricordo. Io sono un uomo anziano e quindi posso fare nonnismo? No, non è vero. Ma ascolta, carissimo, ma adesso dobbiamo farti altre domande, sono molto più semplici. La prima, che canzone vuoi ascoltare adesso e vuoi far ascoltare adesso a chiunque ci stia ascoltando? Dai, ma posso essere pure abbastanza molesto. Ma dai, sì, ma devi. Ma sì. Sì, dai, mettimi... If the Kids Are United degli Sham 69. Allora, the o If the Kids? If the Kids Are United. Ma siamo siamo sul pancoi. Sì, oi, va bene. Ah, ho capito. Cavolo, questa è veramente una persona fantastica. Stavamo parlando di tutto il lavoro che facevo le brigate e metti questa canzone. Che uomo. Allora, ma invece comunque guarda che qui non siamo al talk delle brigate, quindi se devi toglierti qualche sassolino dalla scarpa devi farlo. Ti prego. Guglielmo, che si ti guardi, Guglielmo, ma scusa Jacopo, mi distolgo l'attenzione con c'erano immagini di tette e verruche, non capivo. Le verruche erano più interessanti. Jacopo, nomi e cognomi, spietato, dai, abbraccio, ci ascoltano solo 3 milioni di persone, vai, qualcosa ti sta... No, non c'è niente, figurati, non ho... Ma va. Come fare a lamentarsi, no? Dai, perché... Secondo me non erano problemi tecnici, secondo me Jacopo si è autosabotato perché gli stava salendo una carogna. No, lì ero molto tranquillo. Ma invece scusami, allora ti faccio una domanda scomoda, no? Perché altro abbastanza seria, ma come va con la presenza di Branco e cose del genere lì in zona 8? Ma che sono dei chiacchieroni, sembrerebbe, cioè, più che altro le uniche foto, Branco, boh, abbiamo visto poca roba, cioè, non sono presenti sul territorio di sicuro con presidi, robe del genere. Hanno detto di aver pubblicato, cioè hanno pubblicato delle foto in cui dicevano di aver consegnato 140 pacchi con un magazzino che, boh, probabilmente ne riempiva 20, a meno che non abbiano dato, non so, mezzo chilo di pasta smezzato in due, dubito che stiano davvero facendo qualcosa. Okay. No, non è roba loro, c'è poco da fare, non è roba loro questa. Beh, è sempre bello se rendersene conto di queste cose, sempre fantastico. Va bene, ultima domanda. Noi questa serie di chiamate la facciamo perché c'è qualcuno che ti ha infamato e qualcuno che ci ha detto di chiamarti. E quindi adesso tu è il tuo turno di infamare qualcuno e dici chi chiamare. Sì, la rubrica si apre. La pagina della gente che gli sta sulle balle. Allora. E faremo le stesse domande. Chi è che facciamo chiamare? Donne, abbiamo bisogno di donne qua. Abbiamo bisogno di donne. Compagne. Di compagne. Devo qualche compagna da chiamare. Così su due piedi. Vai. Non lo so. Se la conosciamo entrambi bene, che così magari c'ho il numero e a posto. Se no, niente. Sto pensando pure, cioè, a chi poterti dire. Non lo so. Ti direi magari le ragazze di zona 6. Zona 6, le ragazze sarebbero compagne del cab? Non lo so sinceramente da dove saltino fuori. Ci sono, guarda, di donne tra zona 6 e 7 ci sono Camilla, Orsola e Lucia. Purtroppo dette così non ho presente. Peccato perché abbiamo già visto per esperienza che effettivamente chiamare qualcuno di completamente sconosciuto non gira benissimo. Cioè, un po' tipo, ma chi cazzo sei, chi te l'ha dato il mio numero, esatto, perché mi stai chiamando? Sono veramente in radio, ma davvero, non mi prendi per il culo? No, ci sta. Vabbè, ma no, cazzo, sorvoliamo, andiamo anche sugli uomini, fa niente. Ma sì, insomma, chi c'hai voglia? Ma guarda, non li conosco, ma mi sono piaciuti, non so, magari sono già da voi, ragazzi, quelli che hanno parlato al talk delle brigate, della brigata vostra. Bravo, allora chiamiamo Gabri. Comunque c'era un'inquadratura durante il talk che doveva piacerti un sacco. Non so se hai notato che sopra la testa di Mattia, a sinistra, vicino alla porta, c'è un falce martello. Perché qua zona sud, la diciamo ancora chiaramente come va la storia. Ce le scegliamo le inquadrature, scegliamo. Giusto. No, mi erano piaciuti i ragazzi, mi sembravano sul pezzo, non li ho mai beccati, prima o poi ci beccheremo. Ma questo anche è poco ma sicuro. Yeah. Ascoltaci, mi raccomando. Vuoi salutare qualcuno? Sì. Ma voi non ci crederete, ma ero già connesso. Madonna! Madonna! Ma veramente? Ci stavi ascoltando? Ma secondo te? Ci stavi ascoltando veramente? Sì. Ma va, che storia! Sì. Ma che bello! Tutto questo è magnifico. Va bene, dai, allora noi mandiamo la tua canzone, If the Kids Are United, degli Sham 69. Ti ringraziamo, Jacopo. Andiamo a disturbare chi ci hai detto. Ciao. Dai. Ciao, Nan. Ciao. Comunque il leader dei Clash era Joe Strummer, ci fanno sapere dalla regia. Grazie Pish. Che ci sono i microfoni aperti. Attenzione, attenzione, ho pure sbadigliato. Andiamo subito. La... Si parla di cibo, di cibo che andiamo, non viene mangiato. Andiamo a gamba tesa nella faida Torchiera Bocca, Torchiera Baraonda. Buonasera. Ciao, ciao caro. Come stai? Tutto a posto, te? Bene, bene. Senti, sono qua con un amico che voleva dirti una cosa. Ciao. Con chi sei? Non ho capito. Sono qua con un mio amico che ti voleva dire una cosa. Ah. Ciao, mi okay. Senti? Ciao. Sì, sì, ti sento. Ciao, sono Lorenzo. Ciao Lorenzo. Volevo darti questa bellissima notizia che sei in diretta su Radio ZM, nazionale se non mondiale, se non universale, se non tutto il sistema solare. Addirittura. Addirittura. Addirittura, benvenuto. Devi sapere Lorenzo che Simone è un uomo d'avventura, non lo riuscirei mai a scalfirlo in nessuna maniera. Forse verso l'ottavo cuba inizia a essere scalfito lui, però non lo puoi scalfire. Se vuoi portarmi a Roma mi sblocco, dai. Dai, a posto, ho fatto una cisterna da 60 litri. Allora, come va, carissimo? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Procediamo abbastanza bene. Chi lavora da casa, ma va bene. Ma tanto, poi tu sei informatico, quindi in questa situazione ci vai a nozze proprio. Infatti. Sto lavorando più del solito, io, perché pure. Dobbiamo gestire anche un po' tutto lo smart working di tutta l'azienda, per cui si lavora di più. Ma tu lo sai che oggi abbiamo parlato del tuo lavoro, anzi della materia del tuo lavoro? Sei l'uomo giusto in questo momento, sei l'uomo giusto. In che senso? Nel senso che ci stavamo facendo un tot di domande e in mezzo a questo tot di domande ce n'è venuta in mente una da fare alle persone che andiamo a chiamare in questo momento di idiozia totale, quindi non ti devi preoccupare di niente. La domanda è, se scavi bene nella tua memoria, ti ricordi qual è la prima volta che hai malmenato male un oggetto tecnologico? Oppure può essere anche involontario, nel senso che hai fatto del male a un oggetto tecnologico senza volerlo? Certo, penso che sia intorno ai 5-6 anni con le manopole del Commodore 64. Yes! Grande! Ottimo! Ma invece dato che... Senza dubbio. Ma dato che invece la maniera, scusami, la materia del tuo lavoro, qual è stata invece l'ultima volta che l'hai fatto? Cioè non la prima ma l'ultima, tipo l'ultima ieri, l'altro ieri che hai scassato quarto d'ora la tastiera, fa. Hai spaccato a sei ancora sporco di sangue di macchina. Esatto. No, malmenato fisicamente, nel senso di danneggiato, penso che sia stato un mesetto fa che ho crepato per sbaglio il mio cellulare. No, ah. L'ennesimo della lunga serie. E invece malmenato in senso lato, diciamo che al lavoro mi succede spesso di fare delle cazzate che però non danneggiano fisicamente le cose, ma le danneggiano all'interno con i dati, insomma. Beh, ho capito, bella questa risposta, non me l'aspettavo. Avevo capito che picchiassi le macchine come di solito faccio io con i case dei computer, e invece mi stai parlando di danni interni nei dati. Sì, cioè io lavoro con i database, per cui okay. Programmando succede spesso che sbagli qualcosa al programma. Madonna. E fai dei danni. Le giù le madonne anche. Esatto, lì. Ma cosa fai in quel caso lì? Ti sfoghi sul monitor, sfondi la tastiera, cosa diventi religioso? Esatto. Il discorso è un po' complesso, nel senso che chiaramente lavorando, comunque abbiamo dei backup del database, così per cui al massimo torni morbido. Indietro all'ultimo backup. E poi solitamente comunque quando sviluppi in ambienti di test, per cui anche se danneggi qualcosa sono ambienti che poi puoi riprogrammare. Quando vai già in produzione la cosa diventa più complicata, però diciamo che di solito prima testi tutto in un ambiente dedicato ed eviti di dover sfondare a testate il monitor per la rabbia. Esatto, però di cazzate cioè purtroppo i programmi sono pieni di bachi, come ben sapete anche voi. Ogni tanto i bachi fanno più danni del dovuto e bisogna sistemare, insomma. Ma senti, dato che noi abbiamo un canale, una chat Telegram che funziona molto bene, ci chiedono: ma un nerd che fa sport è un informatico? È una bella, È una bella domanda, ma io non mi considero un nerd perché non mi piace, cioè mi piace il mio lavoro, programmare tutto perché faccio andare il cervello, ma non mi piace il computer, cioè non sono uno smanettone né niente, non ci capisco niente di sistemistica, roba così, perché non me ne frega niente, niente di capirci, per cui okay. invece mi piace giocare a qualunque sport, per cui mi ritengo più uno sportivo che un nerd. Tanto siamo arrivati a chiamarti perché qualcuno ha fatto il tuo nome. Ebbene, se qualcuno esatto. se l'è cantata, ti ha venduto. Ci hanno rispolverato. A gratis, perché non diamo niente. Esatto, tra l'altro. Esatto. Fatemi sapere chi è l'infame. No, te lo diciamo subito apertamente perché è tutto in chiaro. È Paolo. Paolo della Torchierese ha deciso di rispolverare la credine verso il Baraonda che da secoli in memory ormai si compie. E quindi siamo arrivati da te a disturbare il tuo mercoledì sera. Ora sai. Grazie mille, lo ringrazierò personalmente. Bravo, appena bravo, posto bravo. Due schiaffi glieli do. Esatto, aggiungili al conteggio. A questo punto ti facciamo ancora proprio due domande semplicissime. Allora, la prima sì. è: che canzone vuoi ascoltare ora? Qualsiasi cosa tu voglia, lo puoi ascoltare. Qualsiasi. In questo momento ti direi un bel Mami degli Arpioni. Allora, questo bisogna andare a cercare solo per forza. Tra l'altro, Lorenzo, tu non lo sai, ma noi stiamo parlando con il DJ più temuto della trash milanese. Attenzione! Sbaglio? Finché che ne è, o sbaglio? Dici, vogliamo sentire. Mi diletto ogni tanto, però siccome... so che in quell'ambiente lì dove girate voi le piende Terun, allora adesso gli piazza almeno una canzone milanese, insomma. Bravo, bravo. E un DJ come opera in questi momenti appunto di distanziamento? Un DJ come lo faccio io per passione, principalmente nei centri sociali, diciamo che non fa un cazzo. Diciamo che rimane solo in Cuba. Ricordati che sei il benvenuto. Quando vuoi mandarci qualsiasi cosa, saremo troppo felici di mandarla. Ottimo. Se vuoi farci un set, ce lo registri, ce lo mandi. Ma tra l'altro potremmo ripescare quell'idea che avevamo avuto con Ale Baga di fare una serata in distanziamento fisico. Noi piazziamo la telecamera nel cesso di Zam, mandiamo la musica trash e ognuno a casa sua si fa la sua serata. Che figata, bellissimo. Sarebbe bello, mi piacerebbe. Contatemi nel caso. Dai, va bene. Sarà fatto, sarei anche richiamato. Ok, noi abbiamo il Mami caricato, però prima devo chiederti l'ultimissima cosa, cioè chi vuoi che andiamo a importunare dopo di te? Fai i nomi, cantatela pure tu, infama qualcuno. Dai. Addirittura. Facci disturbare qualcuno. Tieni conto che mancano le donne in questo elenco, eh. Posso dirci, la canzone dice mi sono dei quei che parla e no, per cui io non me la sento di infamare la gente. Sarebbe una mancanza di coerenza totale, cioè. Però allora dici chi dobbiamo chiamare senza infamare nessuno. Chiamate, facciamo così, io no, lui è al lavoro, allora ti nomino, chiamate Davidino del Baraonda, che così mi odia. Bravo, bravo, ma mi riesci a mandare il numero, perché non ce l'ho più? Va bene, te lo mando. Dai, ti ringrazio. Grande, ciao. E ora dal classico repertorio della militanza milanese, Mami degli Arpioni. Serum in quater col Padula e Rodolfo il Gaina e Pemi quater amis quater malnat. Informiamo i gentili ascoltatori e le gentili ascoltatrici che non chiameremo più nessuno perché è arrivato il momento dell'ospite, perché Zona Rossa non arriva sempre, arriva quando meno te lo aspetti. Mi fa morire tu ma pensa. Pe manca ta din din in buscada, ne fechan en a pesirada. Mami, 40 di 40 not, a San Vittura ciampa i pot, dormi de can, bien de balan. Mami, 40 di 40 not, fatti de ciò. Mi sono dei quei che parlerò. Il commissario me manda ciamali per lì. Noi siamo qui, non zende alcun. El me diceva che l'infamo. El me diceva i tuoi compari noi li pigliasse senza di te. Ma se parlassi ti firmo qua il tuo condono, la libertà. Penso sai tu si resti gundendo di essere solo chiuso acca dentro. Mami, mami, mami, 40 di 40 no, a San Vitu, a Ciappa e Bot, dormi de can, vien de balan. Mami, mami, mami, 40 di 40 no, sbatti de su, sbatti de giù, mi son de quei che parle no. Sun sarà su, in stara terra, piena di nebbia, di frecce e di scur. Sotto a sti mur, passe ni tram, precasso e vita del me Milan. Il che resta stretto, peggio la sera, me senti mal e stuminga in pe. Cuccia sul letto, in tun cantun, me par de ves, proprio nessun. Le mesche in guerra, sta sulla terra, libertà, lavarna spiada. Mami, mami, mami, 40 di 40 notte, a San Vitu, a Ciappa e Bot, dormi de can, vien de malan. Mami, mami, mami, 40 di 40 notte, sbatti de su, sbatti de ciò, mi son de quei che parle no. Sono molto contento di averlo portato in queste frequenze, perché guardate Victoria, è un film che mi piace veramente. Ma cosa in queste frequenze che è di là che sta facendo il set? Ah no, minchia, è vero, sì. Capire che in questo momento zona sud, scusa, si è aperto il sole, non, ti non offendere, è più sera, però abbiamo in mano un drink, siamo in, a bordo piscina. Cretino. Siamo morbidissimi. Da qualche parte ci deve essere anche qualcuno che sta utilizzando una discreta quantità di bamba. Lorenzo è uno di questi perché sta per esplodere, adesso muore, sta per avere un coccolone. Siamo qui così alla Balneare Beach Zam, musica soffusa e dolcezza. Questo è il nostro warm up prima di chiamare una persona seria. Lorenzo sta per vomitare gli organi interni. Niente, niente, no, l'abbiamo perso. Dovremmo chiamare Maya anche, tra l'altro. No. Una delle prossime puntate, no. Non ce il la mio fare. Berserk radiofonico, non ce la faccio. Madonna santa. Scusaci, Kentaro Miura. Poche volte Guglielmo mi fa ridere, ma quando lo fa. Com'è l'ambiente alla radio? Sono i fanassorbenti che ti strippano. Non riuscirò. Non, non riuscirai, non riuscirai, non riuscirai. Questo è poco ma sicuro. Ma la cosa divertente è più tu ridi, più io divento serio. Non capisco come mai. Cioè, invece, questo sono freddo, gelido. Ti fa ridere questo funk così morbido? Zona Rossa è il programma che ride di se stesso in onda, mentre voi non capite niente. Tanto poi sai, questo cigolio fastidiosissimo. Spero che da fuori stia passando come violenza. Ma cosa? Ma cosa vuoi da me? Stai mettendo il dito nella piaga di una persona che non ce la fa a smettere di ridere. Con questa? Dicendo morbidissimi. No, quanto deve essere noioso sentire una persona che ride in radio e basta. Ok. ci sei, devi parlare di antropologia, devi parlare di morbidezza. Niente, adesso io farò una scherza side, parlerò con lui mentre tu ti ammazzi alle risate. Devo parlare di risate. Pronto. Ciao Andrea! Ciao a tutti, ciao. Buongiorno, allora in questo momento il mio socio è in preda a un attacco violentissimo di risate, non riesce a parlarti. Ciao. Bene, sono felice, cioè, proprio. Tu sai cosa vuol dire fare un programma con Guglielmo, ma puoi minimamente immaginartelo, io sto morendo, vabbè, aiuto. Mi imputa di essere troppo stupido, Andrea, troppo tu cosa ne pensi? Beh, non mi sento di dover dargli torto. Perché... Ah, ecco, vedi, lo sapevo che arrivava la stoccata. Vabbè, ma senti Andrea, noi abbiamo un milione di cose da chiederti, ma prima di tutto in realtà vorrei chiederti cosa stai per far uscire, perché mi pare che stia per uscire un libricino, così facciamo è subito vero. Track pubblicità. Sì, vai. Settimana prossima possiamo fare pubblicità, soprattutto perché sarà una cosa gratuita e quindi non lo facciamo per guadagnarci niente, e questo è positivo. E uscirà una mia riflessione su quello che è il discorso delle migrazioni, cioè delle donne e degli uomini che non sono nati nella Fortezza Europa, più giusto chiamarli perché sennò non si capisce di cosa stiamo parlando, con la loro, insomma, come si sta comportando sia da un punto di vista istituzionale, normativo, il governo, ma soprattutto cosa significa stare in uno stato di precarietà totale nel momento della pandemia. Quindi non si parlerà soltanto unicamente di dell'annosa questione braccianti, donne e uomini di cura, che comunque è fondamentale parlarne, ne parlo, ma si prende un pochino più alla larga, passa proprio da tutta la formazione appunto del DDL sicurezza o insicurezza, e quindi tutto il discorso della questione appunto donne e uomini migranti in Italia al cospetto di questa situazione. Sarà un ebook soltanto al momento, soltanto un ebook, esce per l'editore Nottetempo. Mm-hmm. E sarà appunto gratuito su tutte le piattaforme, poi vi passerò ovviamente il link e niente, saranno una quarantina di pagine, 50 pagine, una cosa abbastanza easy, però insomma spero di aver fatto un lavoro decente. Ero molto in dubbio se farlo o non farlo, poi alla fine mi sono lasciato convincere, nel senso che ho pensato che forse due o tre cose potevo dirlo. Ovviamente non deve essere pensato come una cosa esaustiva, faccio anche delle proposte, perché dopo l'ultima chiacchierata con voi ho capito che magari ogni tanto fare delle proposte semplici potrebbe essere utile. Capito? Attenzione, fatto capire l'importanza della semplicità. Andrea Staide, zona rossa, dillo. Per voi, tutto per voi. È chiaro, infatti il libro è dedicato assolutamente a voi due. Madonna. Cioè, in copertina c'è la foto di Bulli. Esatto, sta registrando. Andrea, questa cosa verrà usata contro di te in ogni ambito possibile e immaginabile. A quei due sempliciotti, a quelle due menti semplici. Probabilmente non uscirà più dopo questa trasmissione. Esatto. Come tante cose noi danneggiamo. Ti chiamerà il presidente della Federazione Mondiale degli Antropologi e ti dirà: Andrea, lei è licenziato, non ne vogliamo più sapere. No, proprio non loro. Avete mai dato un euro, quindi andate a fanculo. L'ha detto. Schiavismo, zona rossa, schiavismo. Vabbè, no, ma non noi, quelli della Società Mondiale dell'Antropologia. Ti sei fatto sorpassare da Gulli, capito? Madonna, io sono ancora sconvolto dal momento di idiozia che mi ha sottoposto quest'uomo poc'anzi. Ma poi con la traccia che ha messo lui. Sì, esatto, ma perché è un deficiente lui. Io purtroppo non vi ho ascoltato, stavo seguendo il vostro, come si dice, nemico principale che parlava. Chi è? Conte. Sì, Conte. No, come te e altri che abbiamo disturbato, ci hanno detto. Non eravamo al corrente. Cosa ne pensi? Cosa ne penso di cosa, Gulli? Scusa, domanda inutile. Lo ascolto perché, insomma, bisogna anche essere sul pezzo di quello che dicono, no? Però cosa vuoi che penso? Penso che è una roba allucinante, una pantomima, e l'unica cosa che a volte penso è che potrebbe, spero, far riflettere un po' le persone, come dicevamo già altre volte, e pensare veramente di cominciare a un periodo di che possa essere di lotte e di cambiamento. Non è che sono così tanto ottimista, devo essere sincero, però la speranza c'è. Tutt'oggi hanno fatto degli arresti, non so se lo sì, sapete. Assolutamente sì. Io ho sentito solo che ci sono stati degli sì. arresti, non so. No, sono in 12 di compagni e compagne da Bologna, 7 in carcere, 5 ai domiciliari. Ma cioè, anche a Milano hanno fatto. No, solo Bologna. Bologna ci sono state, cioè in realtà. C'è scritto anche Milano, però nell'elenco poi si parla di persone di Bologna comunque. E io suggerisco di andare a leggere l'articolo che è uscito sul blog di Amargi poche ore fa, che riassume un po' appunto questi fatti. E ci sono già i vari indirizzi e i numeri di telefono a cui mandare messaggi ai nostri compagni e compagne. Però a me ha lasciato abbastanza sbigottito, devo essere sincero. Sì, ma io poi se l'ho letto dai giornali, devo essere sincero, non ho altre notizie, adesso vado a vedermi poi dopo quello che stavi consigliando tu, però appunto non sono molto preparato su quello precisamente che è successo, ho letto soltanto proprio la stampaccia, quella che scrive le peggio cose, e quindi sì, sapevo soltanto che era successo perché era scritto anche su Corriere, Repubblica, insomma era un po' su tutti i giornali. Sì, fondamentalmente loro, nel senso, l'operazione ha fatto anche a livello mediatico un outing abbastanza chiaro, nel senso che si stava indagando su dei fatti che appartengono al 2018, in questione proprio l'incendio di un'antenna, se non sbaglio, però la giustificazione sono comunque misure preventive, nel senso che solo per questo momento qua si è preferito procedere agli arresti per un eventuale propaganda che potrebbe ledere di più sulle persone, quindi trovare più consenso, una propaganda ovviamente antistatale. Certo. Quindi solo certo. Esclusivamente come misura preventiva, nel senso che se non ci fosse stata un'emergenza in questo momento non sarebbe successo. Beh, quindi è proprio paradosso dei paradossi, il paradosso dei paradossi. Ti arresti in anticipo perché siamo in emergenza, potrebbe essere ancora più grave. Però, quindi... però non, nel compenso non si può uscire, tutta quella serie di cose, dovresti stare a casa. Però puoi andare a lavorare. E poi puoi andare in galera. Esatto, puoi andare in galera. Giusto. Certo. In galera. Quindi si può andare in galera anche. E obbligano le persone che sono a casa all'obbligo di firma. Quindi le obbligano a uscire di casa. E a incontrare i poliziotti. Io potrei andare avanti tutta la sera. Andare avanti a paradossi, sponde di paradossi, però. L'argomento è un altro, in realtà. Esatto. L'argomento però è un altro. Una discussione, cioè un dialogo più che una domanda. Perché stasera siamo partiti da uno spunto, cioè il comunicato che ha fatto uscire la UNIT, sì, che la è UNIT. Un gruppo di fantastici hackers che ci ha sostenuto e ci sostiene in realtà, perché sono quelli che ci hanno reso possibile la radio dotandoci di strumenti informatici per poterlo fare. Sono usciti con un bellissimo comunicato in cui parlano della relazione tra tecnologia, sicurezza, politica, laddove, questa cosa la cito perché io sono stupido ma le persone che ascolto no, per cui devo ripeterle così come lo dicono, l'informatica è un luogo del potere. Esatto. Cioè anzi l'informazione no, cos'è che diciamo, la tecnologia forse è un luogo del potere. E quindi si soffermavano, ovviamente sul fatto di utilizzare le password, cioè parole che riferiscono a cose tecnologiche che vengono utilizzate a proposito, app, drone, piuttosto che altre cose di questo tipo, ma soprattutto si soffermavano su tutto quell'aspetto che riguarda l'educazione. Cioè, dicevano, migliaia di bambini, bambine, ragazzini, ragazzine, insegnanti che vengono buttati in questa situazione tra chiamate Skype, WhatsApp, messaggi, mail, Google, gli strumenti Microsoft per la didattica, che poi creano tutto quanto un grandissimo pastrocchio dove, insomma, gli insegnanti vengono un po' lasciati da se stessi, i ragazzi e le ragazze non possono studiare come si dovrebbe e tutto viene, insomma, un po'... masticato dal capitale nella sua forma informatica. E quindi volevamo chiedere a te, che di esseri umani tratti e studi tutti i giorni, come fanno le persone a imparare nel momento in cui non hanno un computer davanti nella società attuale? E noi non gliene possiamo portare uno, perché la soluzione sarebbe forse di portargliene uno, ma nel momento in cui non si può fare questa cosa, cosa accadrà? Nel senso, cioè, che rimarranno indietro, ok, e poi? Voi dite, ok, adesso ho capito, non stavo capendo bene, cioè chi non ha la possibilità di avere un device da utilizzare per esatto. fare didattica o cose simili, giusto? Ho sì, capito esatto, bene? Sì, esatto, esatto. Cioè, secondo me, vabbè, ovviamente è la problematica di sempre, cioè una problematica di classe, e quindi mi sembra evidente che sempre di più anche la scuola è un privilegio. soprattutto in un momento in cui si tratta di fare scuola attraverso dei device che non hanno tutti. Non tutti hanno la rete, non tutti hanno la possibilità di avere un computer a testa o un tablet a testa, e quindi chiaramente quelli che, come al solito, pagheranno il conto più caro di tutti saranno proletari e sottoproletari. Non vogliamo usare queste parole, queste categorie, a parte che le vogliamo usare, ma se noi le vogliamo usare, diciamo quelli più, le fasce più povere, precarie e marginali della nostra società. C'è un, giusto perché proprio non si fa pubblicità, perché non ci sono soldi in ballo, però sempre Nottetempo che sta facendo questa politica con questi libri gratuiti di diffusione, di dibattito politico. Ogni settimana fanno uscire un ebook nuovo, e 2 settimane fa è uscito proprio un ebook di un professore di Bologna, scusate adesso non mi sovviene il nome, che parla proprio fa una fortissima critica alla didattica a distanza, e parla proprio dell'esclusione che porta questa didattica, e soprattutto del fatto che tutti noi professori dobbiamo scioperare in massa se questa situazione si protrarrà, perché non può esistere una scuola di questo tipo. Quindi chiaramente io sono ipercritico di questa cosa. Poi io personalmente insegno alla scuola non dell'obbligo, sia a Milano che a Genova. A Milano oltretutto insegno in una scuola particolarmente costosa, e quindi chi ci va tendenzialmente ha tutti i device del mondo, certo, più di me, e quindi non c'è troppo questo problema. Anche all'università di Genova, devo essere sincero, a parte che non sto facendo il corso online, comunque tendenzialmente l'università, quasi tutti, diciamo una percentuale alta comunque di quelli che fanno l'università, hanno un computer o un telefono per poter seguire le lezioni, mentre sappiamo bene che già superiori, medie e elementari la problematica di classe è molto più grossa. Nel senso, perché è più grossa? Perché l'università tendenzialmente, se non c'hai i soldi, se non hai una famiglia medio benestante, non ci vai, devi andare a lavorare. E c'è, quindi si restringe la fetta, sono pochi, ci sono, ma sono pochi gli studenti che lavorano 8 ore al giorno e poi vanno in università. Ci sono sicuramente, certo, ma sono una minoranza, quindi diciamo che l'università si pone meno questo problema, perché l'università di per sé è già una scuola che fa un'esclusione di classe. E quindi sì, il problema c'è, il problema poi non è soltanto questo, secondo me, il problema è ancora più profondo e antropologico, dal punto di vista proprio del dominio, del controllo, dell'assenza dei corpi. Sicuramente il problema del mezzo c'è, ma il problema non è soltanto avere o no il computer, ma il fatto che io debba fare didattica a computer già mi porta a una privazione, secondo me, forte di un sapere condiviso, di una possibile orizzontalità, e soprattutto per le scuole superiori, per l'università, per tutto quello che è già un'età dove si comincia a maturare la voglia di sovvertire, la voglia di ribellione, di dire la propria, chiaramente manca lo spazio della rivolta online, o comunque è completamente diverso. Mentre quando si sta in un'aula, quando si fa un collettivo, quando si sta assieme a ragionare, possono scaturire delle scintille. Ma scusami, Andrea, già devo entrare rapide alla... Mi è venuta in mente una cosa mentre dicevi quest'ultima parte, cioè perché non manca lo spazio della rivolta al computer? Cioè, secondo te il computer lascia molto meno spazio a qualcuno di dire no, non sono d'accordo, no, per me è così, no, questa cosa non l'accetto? Io mi viene in mente quando, che ne so, parlo della mia esperienza delle scuole superiori. È vero che erano altri anni, ma non sono neanche uno degli anni 70, erano fine anni 90, che sicuramente è stato un bel momento, però scoppia la guerra in Kosovo e noi blocchiamo le lezioni, cioè usciamo dalle aule, apriamo le porte delle aule come collettivo, e si ferma tutto, ci troviamo tutti nell'atrio centrale della scuola e si blocca la didattica, e poi si va in corteo selvaggio e senza autorizzazione a fare la protesta. Come cazzo la fai se ognuno è rinchiuso nei propri appartamenti davanti al computer, una roba del genere? Sì, devi reinventarti tutto un immaginario e tutta una serie di pratiche che prima si nascevano da questa età, poi, perché poi si parla di quello, giusto, appunto è iniziato il discorso con gli universitari. E quindi secondo me il problema è questo, non che non c'è la possibilità del dissenso orale, ma c'è proprio l'impossibilità del dissenso fisico, che però rimane fondamentale, fondante anzi direi, cioè per l'uomo, proprio per il discorso del mi rivolto dunque siamo, se tu sei in un'aula è molto più fattibile che se tu sei indifferita. E poi l'altra cosa, poi non so adesso come fanno tutti i professori, però io nella mia piattaforma non lo faccio, ma potrei azzittire tutti. cioè nel senso io spengo arbitrariamente il microfono di tutti e faccio tenere acceso il video, ma loro non possono parlare. Questa cosa qua in aula non la puoi fare. E invece è molto facile farla con le piattaforme didattiche, dalle Classroom di Google a Zoom a Jitsi, noi usiamo Blackboard, però comunque tutte hanno questa opzione, cioè che il professore manda, comanda e decide se tu devi stare zitto, ma ti controllo perché tieni accesa la telecamera, se no ti metto l'assenza. Ripeto, io non farei mai una cosa del genere, però so che si fa e so che è un'opportunità che ha il professore. Per quanto tu puoi farla perché sei autorità in una classe, bah, non so, se io penso a quando andavo a scuola io, adesso non so come sono messi i ragazzi, ma col cavolo che qualcuno poteva decidere di farci stare tutti zitti o di non fare domande o di non andare in bagno, di non alzarci, cioè c'è una libertà di movimento e di occupazione dello spazio completamente diversa. Pensa comunque che il grande classico di apertura delle fantastiche assemblee su Zoom, Jitsi, eccetera, che ormai sono necessarie, tutti in muto, perché poi se quello, c'è quello che cucina, quell'altro che parla con la sorella o fratello, quello che fa casino dietro, si sente un bordello. Giustamente. E quindi sempre chi ha lanciato la chat, boom, muti tutti, parla solo uno, si scrive a fianco chi è che deve intervenire. Bisogna ammettere che sono diventate anche molto ordinate così l'assemblea. Devo dire anche che adesso entro a gamba tesa con il concetto filosofico un po' fantascientifico. Adesso cito Deleuze, attento, attenzione, Andrea, adesso lo cito. Il problema in questo caso è che si sta trattando di una... la cosa che ha evidenziato appunto Andrea, il fatto è che diventa quasi nazista poter dire io vi zittisco tutti con un click, lo faccio io perché lo posso fare, eccetera. Ma non può essere visto come un gesto brutto, perché è funzionale alla macchina. Serve alla macchina a far sì che la voce non entri nei vari microfoni e non si senta un eco pazzesco. Quindi è giustificato. Se prima non poteva essere giustificato un professore che metteva dello scotch in bocca degli studenti perché è considerato fuori di testa, ora invece la macchina ti permette di fare una cosa che prima era reputata sbagliata e invece ora è consentita. Solo perché è strumentale alla macchina, al suo funzionamento. Questa cosa sta prendendo delle pieghe un po' perverse. Ho sentito già di implementazioni di software per webcam che rilevano se l'iride si sposta da quel punto centrale in cui deve stare. Si individua un punto, così lo studente non può copiare da altre parti, non può guardare in altre schede. Deve guardare fisso in un punto. Se sposta l'attenzione, prende dei punti in meno sulla verifica. Sì, sì, no, siamo secondo me, io credo che la situazione è particolarmente grave e credo che nella speranza che comunque si torni nelle aule, si torni nelle piazze, si torni insomma a vivere una vita non mediata da questi device, detto questo, se non succederà dovremo prendere delle scelte fondamentali anche di disobbedienza totale a questa cosa. Cioè non so, io personalmente al momento sono ancora per dire aspettiamo, capiamo e tutto quello che volete, ma non è che si può vivere così. Cioè almeno io non lo accetterei mai, preferisco rischiare sinceramente. Per quello il discorso che volevamo appunto introdurre è che questa prospettiva appunto terribile che ci si prospetta, a me viene da chiedermi già adesso di che strumenti potrò dotarmi per trovare un'alternativa. Perché non mi aspetto che pioveranno dei computer dal cielo e non mi aspetto che il conflitto di classe venga risolto domani. Queste persone che non hanno questi strumenti, va trovata un'alternativa. E io credo che sia questa un po' la chiamata che tra un po' ci toccherà anche capire, che è il discorso che abbiamo affrontato praticamente ogni volta che ci siamo sentiti. Pensare a un nuovo mondo, ma nel senso di alternativa a questo che c'era prima, non tornare a quello di prima. Sì, assolutamente, cioè questa è una cosa molto importante. Poi sul discorso della scuola, ripeto, io poi non è che sono un fine pensatore di come gestire la pedagogia dal punto di vista appunto pandemico e virologico, perché non sono così esperto, anzi non lo sono per niente, cioè state parlando col più impreparato di tutti. Quello che dico però è che secondo me si dovranno trovare delle soluzioni il prima possibile e non dobbiamo aspettare che ci calano là dall'alto, cioè ci potrebbero essere, soprattutto per i ragazzi delle superiori e i ragazzi delle università, potrebbero auto-organizzarsi, probabilmente lo stanno già facendo, per fare loro delle proposte e cominciare delle campagne comunque di pressione, appena avremo più chiara la situazione del contagio, chiaramente anche dal nostro punto di vista, perché poi l'altra cosa secondo me che manca molto e che ci fa capire la debolezza di un movimento politico alternativo, underground, controculturale, rivoluzionario, non so come volete chiamarla, anche qua ognuno usa le parole che gli pare, però la sostanza è che noi siamo totalmente impreparati anche dal punto di vista delle fonti. Cioè, se voi pensate ai movimenti che hanno fatto i cambiamenti nella storia, avevano anche dei ricercatori indipendenti, avevano dei medici, avevano dei collettivi che sapevano dare delle risposte sensate. Io adesso in effetti non mi fido dello Stato, ma non è che vi devo essere sincero, ho dei virologi di riferimento di cui mi posso fidare per trovare delle soluzioni. Posso leggere di tutto e di più e farmi un'idea, ma non ho un qualcosa di cui mi fido perché so che lavora in modo indipendente e che è un qualcosa che lavora non per il momento della crisi, ma sempre, no? E quindi, insomma, diciamo che noi dobbiamo riflettere anche su questo, sul fatto che non siamo in grado e non siamo più in grado di avere uno sguardo, forse da troppo tempo, su quello che sono le soluzioni concrete da dare alle persone, soprattutto in momenti di crisi, e ci deve far riflettere quindi su quando proponiamo un altro mondo, ma in realtà dovremmo intanto cominciare a capire come saperci orientare in questo per cambiarlo, no? E quindi anche su questo nasce la riflessione del produrre non soltanto dei conflitti, che sono fondamentali, io sono assolutamente concorde al farlo, però anche delle, adesso non so, non voglio usare paroloni, per cui mi gira nella testa il discorso del nome del filosofo francese di cui parlavi prima, e quindi corpi istituenti, però dal mio punto di vista sarebbe importante proprio cercare di ragionare su come non soltanto appunto produrre del conflitto, ma produrre dei nuovi corpi sociali e politici che si muovono in parallelo, e quindi l'aspetto creativo e di mutazione culturale e politica che deve andare di pari passo con quello conflittuale. Mi sembra che siamo un po' carenti su questo, sì. Sinceramente. Sì. Io l'ho trovato uno ieri per strada, però se vuol dire che siamo carenti, no, non è vero. Scusami Andrea, dovevo dire una cagata per contratto per forza, se no non veniva bene. Prima. Mi stavo annoiando da solo, guarda. No, comunque sai che cosa? Che io ho notato che prima diceva Lorenzo in un passaggio che il conflitto di classe non si risolverà domani, ma sicuramente il conflitto di classe verrà risolto dalla dittatura del proletariato. Questa è poco, ma sicuro. L'ha detto. Là in quei paesi dove la tecnologia fu una risorsa del popolo. Esatto. Giusto? Guarda, Gulli, mi hai fatto venire in mente una cosa che pensavo l'altro giorno. Gli do un sacco di idee, vedi? È incredibile. Sei il suo mito. Sì, proprio. Ero lì, Gulli, che zappavo e pensavo, minchia, devo dirgli questa cosa qua, Gulli, in trasmissione, voglio vedere come mi risponde. Vai. Poi mi ha operato al dente, non ci siamo sentiti e io me lo sono dimenticato, quindi adesso te lo dirò. Vai. Quindi, secondo la tua teoria... Sì. Allora, anzi, siamo rimasti ancora ai viaggi su Marte? Faccio proprio lo stronzo. L'ora. Vai. Ti faccio prima una domanda. Tu, ovviamente, ma lo so, è retorica come domanda, sei giustamente contro la TAV. Sì, contro la TAV in Valsusa, non contro la TAV in generale. Contro la TAV, ma se la TAV in Valsusa però la facesse un regime comunista saresti d'accordo? No, uguale, ma sarei comunque d'accordo al treno di alta velocità. Cioè, nel senso, per me il problema è che stai andando a trivellare il Monte Pieno d'Amianto in un luogo dove la comunità non lo vuole, eccetera, quando non serve perché i binari ci sono già, quindi potresti sfruttarli meglio quelli che già ci sono. Però il treno ad alta velocità secondo me è una figata e forse dovrebbe esserci solo treno ad alta velocità e nessuna autostrada, capito? No, capito, però comunque quindi tu dai diritto di parola a una comunità montana. Dai. Allora sei contro la centralizzazione, amico mio. Purtroppo Andrea, io ho cercato di nasconderlo fin troppo a lungo, ma è così. Da quando abbiamo sposato il confederalismo democratico, è così. Si può più litigare, quindi che palle. Hai visto. C'è da dire che comunque sia, sta ben vedere, la confederazione delle comunità è comunque un potere centralizzato che sta nel popolo, quindi orizzontale, non gerarchico, ma è comunque una dittatura. Io sono comunque contento. La dittatura. Certo. scusami. No, io volevo dire, a parte il fatto che uscirà una fantastica pillola dove Andrea Staid dice sono necessari atti di disobbedienza, tram, esatto. Mandiamo a ripetizione finché non ci verranno a dire quel disobbediente di Andrea prendi fuoco. Vabbè, probabilmente sì. Perché chi lo dirà non conosce Turo e quindi bisogna conoscere Turo. È stata una lettura superficiale e quasi pseudo revisionista di Turo da parte di determinate persone a fine anni 90, però la disobbedienza civile è una gran figata, io sono d'accordissimo. Grande, grande, fantastico. Segno anche questo minutaggio e faremo anche questa pillolina. Esatto. È troppo bello. E Guglielmo ha capito finalmente cosa vuol dire quote. Esatto, esatto. E da lì abbiamo deciso che ne raccogliamo un sacco. Settimana scorsa Andrea non ti abbiamo chiamato, giustamente perché avevi interrotto, ma ho scoperto cos'è un rizoma e oggi l'ho ritratto su Facebook finalmente. Chi è l'ospite che ha parlato del rizoma? No, no, sono io. Lorenzo. Ma senti, noi ci abbiamo verso la fine della chiacchierata e a questo punto in realtà chiediamolo anche a lui, stavo per dirlo io. Allora Andrea, devi scavare tantissimo nella tua memoria e raccontarci quando è stata la prima volta che hai, volontariamente o meno, fatto del male a un oggetto tecnologico, che l'hai spaccato male per volontà o meno. L'ultima volta? No, la prima. La prima. Se vuoi l'ultima, però in realtà la domanda è la prima. Scusa, mi ero distratto. Allora, la prima. Erano gli anni 80, era opera, c'era un sacco di tipo... zanzare. Stiamo parlando di. Cioè, non roba politica, cioè non roba per forza intelligente. Beh, se ci vuoi dire un reato, puoi dirci un reato. Mi sa che è scaduto la prescrizione. Diventerà l'ennesima quote. Cioè, poteva essere anche fatto una cosa collettiva, ma senza aver creato un reato, perché erano oggetti... Vabbè, no, ho capito comunque, quindi quel cazzo che mi pare. Ma la macchina è considerata tecnologia? Assolutamente sì. Ok, allora eravamo ragazzini a opera, appunto, credo intorno ai 6 anni, 7 anni, e avevamo le fionde, ovviamente, perché quando eravamo piccoli noi, negli anni 80, si giocava con attrezzi giusti, non con i tablet, giusto, e quindi abbiamo distrutto la macchina affiondate e sassate, pensando che fosse abbandonata. Poi ci sono venute a dire le mamme che in realtà quella macchina era solo parcheggiata lì perché il tipo era in vacanza. eravamo il più grande, credo che avevo 8 anni, oltretutto. Madonna. Beh, avevi un futuro già scritto, direi, esatto. Già evidente fin da quando eri bambino. Sì, beh, considera che il nostro gioco preferito comunque rimaneva quello di buttarsi dalle biciclette in corsa al parchetto, quindi abbiamo sempre brillato per intelligenza. Beh, comunque è una bella storia. Che condividiamo tutti, esatto, che condividiamo, esatto. In realtà sì. Io avevo l'hobby con i miei amici di metterci dentro i carrelli della spesa, perché si era già diffuso il fenomeno mediatico di Jackass, e quindi imitando gli deficienti ci schiantavamo con i carrelli un po' ovunque. No, io fionde come Andrea, però poi eravamo più campagnoli, quindi giravamo nei boschi. Storie losche. Dalla provincia di Novara. Paura e terrore. Vabbè, ascolta carissimo, ci vuoi dire cosa vuoi ascoltare stasera? Cosa ti sei svegliato stamattina piuttosto? Allora, però in realtà io stamattina mi sono svegliato e ho messo su un disco che non vorrei proprio far addormentare tutti, perché è Stanghetz. Quindi direi che potremmo... Stanghetz cosa vuol dire? Che stanchezza, no, stanchezza è un jazzista, però direi di no, dai, non mettiamo un pezzo troppo... Ok, dici tu. Quindi mettiamo un amico, mettiamo un pezzo di Acero insieme a Drowning Dog, che conoscono tutti, quindi così almeno penso a due miei amici, un'amica che è a Berlino, un DJ che è a Berlino e un amico che sta a Rozzano, credo. Anzi, a Rozzano. Allora, Acero nel nostro database non c'è. No, c'è Nostra Patria del Mondo Intero EP. Con MC Caserio, Colmo d'Odio, con però featuring di Acero Moretti. Se no, mettiamo. Ah, perché non avete più? Vi hanno tolto internet? Vi hanno tolto no, ce l'abbiamo. È solo pigro, non c'ha voglia di scrivere. Cosa preferisci? Se adesso ridi, Antagonista Vita, 16 marzo. Mani in alto. Vai, Antagonista Vita, quello antagonista con Drowning Dog. Io ho fatto un pasticcio come al solito, ho trasportato la finestra da qua a là. È proprio vero che la tecnologia ci rende succubi. Non picchiare il computer. Eccoci qua. Comunque Lorenzo ha specificato la domanda mettendola giustamente sulla parte della formazione, delle giovani menti riguardo agli strumenti tecnologici. Io volevo partire proprio dalla lectio magistralis, tipo qual è il rapporto dell'umano con la tecnica. Voleva arrivare a quelle cose lì. Quindi adesso fatto Lorenzo. Va bene, della prossima volta allora parleremo di Ivan Illich e di queste cose di cui vuoi parlare tu. Fantastico. Ma come stanno andando invece le lezioni in università? Ci sono altri furbacchioni che, dai, infatti, che fanno scene penose? No, perché adesso non ci sono gli esami. Ho fatto le tesi però le tesi insomma sono andate benissimo. È stato tristissimo perché sono lavori belli che impegnativi, ci sono stati dietro un anno e poi poveracci hanno dovuto fare le tesi online. Oltretutto una delle tesi che ho fatto, cioè io non ho fatto niente, io ho fatto solo l'aiuto da casa, nel senso che ero il relatore, però una delle ragazze che si è laureata con me ha fatto una tesi sul conflitto sociale che si chiamava Contro l'ordine, dove analizzava da un punto di vista antropologico ma con una restituzione artistica, quindi di disegno, la lotta delle lotte dei migranti, la lotta dei lavoratori precari, non una di meno, e climate change, quindi tutte le lotte. Ale. Che figata. Quindi, una bella storia proprio, sta una bella discussione, bravissima. Bello. Ma queste tesi si possono leggere? Cioè sono pubbliche o sono no, di proprietà penso. Dei di dipende dallo studente. So, no, credo che siano. Boh, non lo so se la biblioteca dell'università è accessibile a tutti o solo agli iscritti. Sai che mi cogli impreparato. Sono in biblioteca, comunque non è difficile averla, ma io punterei a fargliela pubblicare questa tesi. Esatto, infatti. Che storia. Quindi prossimamente book di nottetempo. Sai che ti ho perso? Cosa dicevo, detto? Prossimamente magari finirà tra gli ebook gratuiti di nottetempo. Sì, non credo. Però comunque magari una bella graphic novel pubblicata da qualche editore a un prezzo decente potrebbe essere. Che figata. Che bomba. Va bene, ti ringraziamo Andrea per l'ennesima volta. Torneremo a disturbarti settimana prossima. Sentiamo settimana prossima. Ciao Andrea. Ciao. Arrivo, faccio tutto. C'è l'auto DJ inserito, quindi lo farà da solo, no? Facciamo così lo forziamo un pochino. Track. Antagonista video, Angelo olé, Moretti. Olé. Proposto da Andrea Staida, anche per questa settimana, abbiamo sentito. E zona rossa torna fra pochissimo. Suggest that we take anti-statists advice and give up on hope and listen instead to voices from below. Voices from below. Maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi è messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi sai, per uscire dal gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge, la vita è una galera, etiope cora nera, né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili, contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita. Che vamo a fare? Hai che luce? Feeling like you're getting ripped off every day, said you gotta watch the hustle in no critical way, when it's big business bestiality, baby, eat you up and roll you over, hey, slap your mother and eat your brother, all in the name of war, power, profit, they say it's so natural, you can't stop it, but yes we can, it's like just say no, said you change what you know, popular votes from below, it don't feel good and it don't feel right, got you staying up late night, putting stress in your life, as the senior thieves like them I can't be, so I made the decision, we can make a choice, antagonista vita, antagonista vita life. But Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC, fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action, to action. Eccoci qua. Che pezzone, torniamo che in pezzone. Onda. Nel frattempo sto litigando col mio telefono perché sto facendo delle cose sbagliate. Okay. Faceva un bel rumore, però mi è piaciuto. Cioè, sembrava i rumori che ho usato nella lettura di prima. Esatto, che qualcuno ha detto prima. Qualcuno ha detto: ma ci sono dei rumori metallici fastidiosi sotto qualcuno fondo. Che non ha risposto al telefono quando l'abbiamo chiamato stasera. Sì, qualche bastardo che si nasconde in quel di. Quella carogna. Quel di? Dov'è che sta? A Sago. Ad Assago ci stanno le carogne. Ci va, pusillanime. Bravo, vedo che inizia a usare i termini giusti. Cioè, ma non c'è neanche richiamato. Veramente, veramente penoso, ma ha detto che stava mangiando. Indegno. Perché mi ha scritto lei, chiedendomi, ma non mi hai chiamato per caso? Però non avevo tempo. Mi spiace, ma non abbiamo tempo. Spero tu abbia cambiato la montatura degli occhiali nel mentre, ma comunque non abbiamo che tempo. Che acido, mamma mia. Mentre Gulli risponde, perché non può non rispondere, sennò pensa che gli altri pensino male, che lui pensa che gli altri pensino male. Mi sembra un po' un rizoma alla Deleuze questo. Esatto, vi racconto che ha scritto un Riccardo che salutiamo e ringraziamo. Ciao belli, mi sa che meno male che è una radio che non ci ha mai visto, perché mi sa che qua partiamo malissimo. Grazie per la diretta, ma non ci di che, è gratis quando vuoi. H24, mi sembra che le tesi. Scusa, Guglielmo, puoi facilitare la mia vista? Inclinare il computer un po' verso di me. No, era bello vederti strizzare gli occhi finché non ti esplodevano dalle orbite. Grazie. Oh, mi sembra che le tesi di cui Andrea è relatore siano pubbliche ed accessibili a questo collegamento. Grazie, Riccardo. Andremo sicuramente a visionare. Usate la chat di Radio ZM perché è una figata, cioè non avete capito. Funziona. In questo caso Riccardo poteva anche dirci, ma brutti pezzi di merda, quanto fate cagare? Questo è il link, come fate a non saperlo, butte capre ignoranti che non preparate i programmi prima? E a quel punto poteva anche aggiungere virgola, grazie Lorenzo, comunque tu sei bravo, perché ci aveva con me evidentemente dicendo quindi, questi insulti. Radio ZAM _ chat, mi raccomando, ci teniamo particolarmente... Usatela. Allora, quando sei in queste situazioni qui, no? Che sei così carico di pathos, prova a diventare un po' più melanese. Mi raccomandi. No, così sei il cummenda e fai schifi. Mi raccomandi. Ma cos'è sta? Vabbè, dai, andiamo avanti. Vabbè, allora, secondo me c'è bisogno di un po' di ginnastica per essere d'aspetto. Io sono avanti, me ne ricordo. Tu non è che sei avanti, c'è bisogno di braccia strappate all'agricoltura, c'è bisogno di non so come dire, modi nuovi per dire cose vecchie, c'è bisogno di sapienza per comodini. Ma mica siamo sulla cresta dell'onda nel mare di Palta. Potremmo essere insulsi, ma un po' meno. Il tuo comportamento è tanta competizione per nulla. Ma a questo punto devi continuare un attimino tu, perché sono un attimo impantanato in cose. Stai parlando solo di la rava e la fava. E poi non vuoi sapere cose di cui non volevamo sapere nulla in realtà. No, solo voglio di spermuta di zucca in questo momento. Ah, un'ottima spermuta di zucca, dice? Sembra che fai le domande per i nonni. Ma veramente? Oppure potremmo dire cose che potevamo benissimo vivere senza saperle. Minchia, Sapientino colpisce ancora. Oh. C'è anche del nozionismo senza un perché. Sei peggio dell'inutilità in pillole. Oppure potremmo giocare alla lotteria dei robottini. Guglielmo, sembra una ricerca di base questa. Anche se, ma a me sembrano formiche al galoppo. Che hanno linfobesità. Sì, vero, vero, ma hanno frequentato l'università della sedia. Cazzo, buonamente non lengue. Non langue. E cosa? Buonamente non langue. Senti, cioè, proprio sei arrivata alla sticazziteca tu. Adesso hai perso come al solito. Sei un imbelle, nel senso che non bellisci. Dai, no, lasciamo Guglielmo. Sto chiamando te, perché sono un deficiente. Sono un idiota. Ho sbagliato, invece di chiamare te. Potevamo esplodere in due secondi e non è stato così. Dovevo chiamare con lei, che sola può sfamare la nostra voglia di sapere, idiota. E lei arriva come ogni mercoledì sera verso il tardi, c'è Chiara. Sì, Riccardo, si chiama Antagonisti a vita la canzone che ha messo Stide. Basta adesso emozionarti. Ciao Franz. Ciao Bruzzi. Allora, che accoglienza. Bene, dai. Come state, carissimi? Bene, bene. Ora molto meglio. Ma tu ti rendi conto che ci hanno scritto? Io so che state giocando sempre a questo gioco dei titoli, sperando che prima o poi io vi riveli la mia famosissima sigla, ma non succederà. No, come no? Gaglioffa. Non puoi dirlo, andremo avanti fino alla fine. Gaglioffa, sei veramente... Guarda, senti come non ride. Non succederà. Rivendicheremo questo momento di idiozia altissimo fino alla fine. Ti prenderemo per stanchezza. Certamente, però senti, in realtà era tutto un modo per creare dell'hype, perché non avevo ancora detto che avevo trovato la sigla. Allora dovevo farmi, dovevo bullarmi di questa cosa. Ah, l'hai trovata quindi? Certo, tu sei dotato di poca memoria perché ve l'ho anche detto qualche settimana fa, ma sì, in realtà ce l'ho. Siamo dei... Guglielmo, sei il solito. Sei veramente il solito. Sei veramente il solito. Chiara, perdonalo. Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate. Tra l'altro mi piace questa cosa che avete usato oggi, sia della tecnologia, sia del fatto che oggi Gulli ha dei problemi con il computer, che sì, è un problema con la tecnologia, sì, Ipse. Cioè, vero. Madonna, quanto cazzo siete avanti. Noi mettiamo in pratica i problemi di cui parliamo. Ma no, ma in realtà è venuto fuori perché io sto smadonnando da una settimana col computer della radio. E quindi continuiamo a fare cose. A un certo punto stamattina cosa parliamo? Dei danni tecnologici della mente umana. Perché stiamo sclerando anche molto noi. Bello, Lorenzo è danneggiato bello, molto bravi. Sì. Quindi ma vai. Molto bene. Vai, dici Chiara qual è il tema di stasera, quindi, illuminaci. Poi ci dici anche come hai rotto un oggetto sera... tecnologico. Esatto. Ci ho pensato, ma in realtà da noi, sai, la tecnologia abito più o meno nei pressi di Quarto Giara, quindi sai com'è. No, non è vero. No, ma cavolo, cavolo. No, chiama il macio e fagliamolo perculare anche lui. Madonna santa. No, devo dire che in realtà non ho mai malmenato volontariamente quantomeno oggetti elettronici, li malmeno nel senso che continuano a cadere dalle tasche ed è il motivo per cui ho ancora un 3310 come ben sapete, ha spaccato diversi marciapiedi tranne quella volta che ero al Media World e ho inclinato un 36 pollici, ha fatto effetto domino in altri 10. Spaccato tutto il negozio. Esatto. Immagini, c'è quello lì, esiste nel mondo e lo beccheremo. Ma certo che c'è. C'è anche il tizio che, se non conoscete, vi invito a cercare sull'internet. Vediamo se è la stessa cosa che ho pensato io. Vai, Chiara. Il tizio che ruba il... Brava! Uguale, identico! Grande, cosa fa? Grande. È un genio malato. Un video bellissimo di un tizio che ruba un televisore, non so quanti pollici, ma penso che data la dimensione probabilmente la misura fosse in braccia. Si mette alle telecamere in parallelo ogni volta. Esattamente. Sì, no, è un genio. Si mette continuamente di profilo, quindi sembra che regga in mano tipo un filo nero, che non capisci cosa sia. Poi quando esce dalla porta che gira 90 gradi per scappare, di c'è uno sharp, c'è una roba gigante. Purtroppo temo che lo sgamino 6 secondi dopo, perché non credo che fosse particolarmente maneggevole come furto. Esatto, che corri con quell'oggetto in mano, mi sa che... Però comunque, secondo io fossi stata uno della sicurezza, che già mai nella vita, però sai mai... gliel'avrei lasciato così. Applausi, certo, non ricade secondo sul tuo stipendio. Era meritata, quel punto. Era meritata, mani basse proprio. Sì, sarebbe stato giusto. Mi è sfuggito, capo, non sapevo niente, mi spiace. Non l'ho visto. Sono rimasto bacio. Ha visto non cosa ha fatto alle videocamere quest'uomo? Cioè, guardi cosa ha fatto, mi è sfuggito. Esattamente. No, allora io invece in realtà oggi vi chiamo per raccontarvi quando, insomma, perché noi siamo cialtroni e su questo non piove, ci piove mai, diciamo. Mai. Secco come rossa. Secco come sale. Non ci sono mai stati particolarmente dubbi, ma in realtà lo scopo della demenza di oggi è quella di raccontare quando anche degli altri sono dementi, cioè non solo noi siamo idioti, ma anche delle altre persone. Volevamo e in particolare meno delle sole. Persone che potenzialmente hanno dei ruoli anche di un certo genere, quindi la puntata è sugli epic fails dell'informatica, diciamo un po' più in grande di Madonna. Del mix XX. Non ce l'abbiamo un motivetto sotto da me. Dai, adesso lo cerchiamo. Comunque è anche meglio di quello che gli avevo suggerito io, cioè lei l'ha messo meglio di come gli avevo messo io. Chiara è fantastica. Non avevamo dubbi. Allora Lorenzo, tu sei un pusillanime e non parlare. Se ti metto una base 8 bit random, ti piace? La base, sì, penso che non la sentirò, ma mi fiderò di voi, nel senso che temo che il mio telefono non percepirà il tappeto musicale, però la musichetta di Super Mario forse. Dai, adesso la troviamo. Ci sono gli 8-bit remixes of popular song. Dai, carino. Perfetto, mi vai, sembra tu ottimo. Inizia pure che noi tanto sfarfugliamo col computer. In realtà, ovviamente l'informatica riguarda un sacco di ambiti dell'esistente, quindi diciamo potenzialmente toccano un po' qualsiasi cosa. Devo dire la verità, svariati riguardano il mondo dell'aerospaziale, diciamo, nel senso che sono degli oggetti molto grossi e molto costosi che con dei piccoli errori come dire tecnici informatici possono portare a migliaia di milioni di miliardi di dollari spesi male, anni di lavoro buttati nel cesso. Esattamente, e quindi insomma ne ho selezionati un po', in realtà vado un po' random, però insomma non so, vedremo un po' come andrà a finire questa cosa. Allora, la prima che vi racconto, in realtà i primi due sono per l'appunto effettivamente cose aerospaziali. Siccome siamo un po' bipartisan, no, non è vero, non siamo assolutamente bipartisan, ma insomma il tema della guerra fredda è lì, e quindi siccome succedono da una parte e dall'altra, ne raccontiamo uno e uno per iniziare. Allora, no, ce n'è uno solo ovviamente dei sovietici, però è molto celebre. Io più pur di non iniziare da quello inizio con quelli della NASA, così. Okay. Allora, il primo racconto è sulla sonda spaziale Mariner, o Mariner, suppongo Mariner probabilmente, guerra fredda, quindi siamo nel 1962, sì. Quindi crisi dei missili cubani alle porte, nel senso che mancano proprio 2 mesi e mezzo, stiamo parlando del luglio 62. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, come ben sappiamo, si stanno vicendevolmente testando, diciamo, sulle competenze aerospaziali, cioè lo Sputnik nel 57, nel 61 Gagarin effettua il primo lancio, nel 69 ci sarà il primo allunaggio umano, perlomeno la finzione statunitense, quella per convincerci che la Terra non è piatta. Diciamolo. Allora, insomma, siamo al 22 di luglio del 62, la NASA fa decollare questa sonda automatica Mariner 1, la quale decolla da un posto in Florida che si chiama Cape Canaveral, e diciamo l'obiettivo di questa sonda è Venere. Quindi fighissimo. Alena, bomba. Atmosfera super tesa, perché insomma siamo nel 62, stanno puntando verso Venere, spacca. La sonda parte, invece che dirigersi verso Venere, subito dopo il lancio piega a sinistra e punta verso il basso. La NASA è costretta a farla esplodere in volo per evitare che causi danni, precipitando intera. Molto, molto bello. Che cos'è successo? Vai. La NASA lo dice, la NASA pubblica un rapporto poco dopo e ammette che la causa dell'errore è un trattino mancante da una riga del codice del programma di guida automatica della sonda, cioè praticamente un meno, per cui veniva fuori che il muso della sonda, invece che puntare verso il cielo, puntava verso terra. Madonna. E quindi ha appena potuto è girato per puntare verso terra. Quindi adesso possiamo ripensare a tutte quelle volte che abbiamo sbagliato degli esercizi, le verifiche di mate fin dalle elementari, perché ci eravamo dimenticati un meno, è quello. E capire che tutto sommato poteva andare anche molto peggio di come è andata noi, anche perché nel caso specifico la sonda e il vettore erano costati più di 80 milioni di dollari dell'epoca, quindi del 62. Bruscolini. Scusate, interrompo perché questa c'è una... è la prima storia. Aspetta, Chiara, c'è una frase che secondo me riassume tutto quello che è successo in questa situazione. Me la disse il muratore egiziano dei miei capi con cui ho incontrato la prima volta a Rozzano, che sono arrivato lì, mi è caduto tipo di mano una cazzuola, mi guarda e mi fa: che figura di merda. Commento laconico sulla figura della NASA. Figura di merda. Molto bello, Guglielmo, ma non è la sola. Esatto. Non la sola. Non è la sola. In realtà quella che segue è una storia che non è una figura di merda, perché è una storia molto famosa con cui hanno tentato anche addirittura di screditare l'Unione Sovietica, ma senza successo, perché tutto sommato l'Unione Sovietica è una città meglio di prima. È una storia con lieto fine. Nel senso che l'uomo sovietico può anche più della macchina sovietica, tu pensa. Sto già piangendo, mio Dio! Segna l'orario, segnalo. Cos'è? Un'altra quote. Allora, in realtà è abbastanza famosa questa, nel senso che il protagonista, che è Stanislav Petrov, è stato definito l'uomo che ha salvato il mondo dalla terza guerra mondiale. Credo che abbiamo fatto anche un documentario di recente. La storia è questa: 26 settembre dell'83. lui, tenente colonnello dell'esercito sovietico, ha il turno di notte ed è chiamato a controllare i dati satellitari che sorvegliano i movimenti degli armamenti e dei missili statunitensi. È l'83, quindi la storia di prima era del 62, che è vicina alla crisi dei missili, ma in realtà l'83 è un momento di super altissima tensione, perché è quello in cui Reagan ha annunciato il progetto dello scudo spaziale, che è quello sostanzialmente in cui gli Stati Uniti sostengono che stanno lavorando ad uno scudo spaziale che intercetta dallo spazio le testate nucleari sovietiche. Quindi stiamo parlando di un momento in cui potenzialmente gli Stati Uniti hanno dichiarato di poter mandare delle bombe atomiche sull'Unione Sovietica senza neanche paura di ritorsioni. Esattamente. Quindi momento di estrema tension. Noi torniamo a Petrov nel suo ufficetto, che a un certo punto vede nello schermo 5 missili intercontinentali partiti da una base del Montana. Oh cazzo. Allora, in cosa consiste il lavoro di Petrov? Perché ovviamente uno dice controllare i dati, che cazzo vuol dire? Io controllo, si vedo, dico bella lì. No, ovviamente nel suo caso. Oh raga, 5 missili segnati. È la parte, in cui dico bella lì che mi piace. Vado avanti, bella lì. 5 missili, bella lì. Allora, ovviamente nel suo caso lui deve controllare gli schemi, se vede qualche cosa che non va, fare partire un allarme che alla fine faccia partire a sua volta, insomma, tutta una serie di catene di comando, poi una rappresaglia dei missili puntati sulle capitali della, diciamo, dell'Europa NATO, fondamentalmente. E 5 missili intercontinentali effettivamente sono qualche cosa che non va, ecco, mettiamola così. Ora, Petrov è stato definito l'uomo che ha salvato, per l'appunto, il mondo dalla terza guerra mondiale. Il motivo di questa cosa è che lui, prima di fare partire in batta il segnale, ci pensa, ci ripensa e dice: ma sti Stati Uniti, se vogliono fare partire un attacco preventivo e fare partire la terza guerra mondiale, lo fanno con 5 missiletti de merda, tenendo conto che fra Stati Uniti e Unione Sovietica 5 anni dopo solo in Europa ce n'erano 2700 armati? E quindi dice: beh, magari questi 5 missili non sono precisamente un attacco missilistico statunitense. E quindi lo interpreta con come un errore del satellite e non manda il comando. Ed effettivamente alla fine pare che fosse un abbaglio del sole riflesso dalle nuvole. Quindi se oggi avete 2 braccia invece che 5 o 6, no, c'è di mezzo Petrov. Tra l'altro, diciamo che poi la vulgata antisovietica, e in realtà probabilmente, ahimè, è così, vuole che non sia andata benissimo, perché lui in una maniera o nell'altra è stato intimato di andare in pensione anticipatamente dopo alcune pressioni. Cioè, per questa cosa qua un discreto esaurimento nervoso per lo stress, ma a fronte di questa cosa qua, di questo mancato allarme, a fronte di questa cosa qua, perché aveva preso delle decisioni un po' troppo in autonomia senza dirle agli altri, e quindi insomma non è stato proprio osannato. Però, ma tu puoi immaginare però, 5 minuti di merda devi vivere se vedi sul tuo schermo 5 missili che partono, dici... non male. Stanislav Petrov, tra l'altro, effettivamente, per la cronaca, dal 2013 il 26 settembre è la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari dell'ONU, che era quel giorno proprio quel giorno lì. E quindi questa è la seconda storia di sbattone informatico non male. E noi ci lamentiamo quando non prende il telefono o già arriva il pacco. Mica pensa di essere in questa situazione. Infatti, i prossimi poi li lasciamo un po' più soft, nel senso che così stemperiamo un po' questo momento tension. Un'altra storia notevole è quella del Denver International Airport, cioè? Il nuovissimo aeroporto internazionale di Denver, che nel 95 doveva essere super all'avanguardia, e quindi fanno una serie di lavori della Madonna, che con un complesso sistema computerizzato di smistamento dei bagagli e cavi in fibra ottica per 8000 chilometri doveva essere praticamente automatizzatissimo, eccetera eccetera. purtroppo dei difetti nel sistema dello smistamento finiscono per tritare alcune valigie e farne schiantare contro i muri i carrelli automatici. E quindi alla fine niente, nel 95 questo succedeva, l'aeroporto è costretto ad aprire 16 mesi dopo la data prevista. Madonna. E sfora di solo 3,2 miliardi di dollari. Ma rispetto solo ai preventivi. Metà del prezzo di alla fine il sistema di smistamento dei bagagli è praticamente manuale. Quindi si è tornati proprio alla base. Sì, hanno investito solo la valigia e vattela a prendere. Con i loro, c'erano dei gioppini con i loro carrelli che venivano a portarteli in livrea. Alla fine era risolta così. Però sì, io mi sono immaginata questa cosa che tritava il tipo automazione 1000 nel 95 e l'aeroporto che tritava i bagagli direttamente così in curva, un mare di merda. Esatto, è una nuvola di coriandoli, questi sono i bagagli. Esattamente, esattamente. Che poi strano. Per esempio c'è... non male, c'è un mini... guasto di una centrale telefonica che nel 15 gennaio del 90 praticamente con diciamo un software di gestione di questa compagnia telefonica fissa ovviamente nel senso che siamo nel 90 per l'appunto viene a questo nuovo software di gestione aggiornato da poco, contiene una sola riga sbagliata che crea un effetto domino che da una singola centrale fa collassare tutte le altre centrali. No, Madonna. Per un totale di 75 milioni di telefonate che cadono nel vuoto. Madonna. E 60.000 utenti che restano senza la possibilità di fare interurbane per ore, quindi anche loro non male. Scusami, in sottofondo ti abbiamo messo una versione 8 bit di una canzone di Ghostbuster che è una bomba. È bellissima. Che è una bomba, mi immagino. Abbiamo fatto il tappeto sonoro, secondo me sta molto molto bene. Molto bello, molto bello. Poi non so, vado avanti, eh. Ma come le trovate sempre, ci viene da domandarci. Perché cazzo trovate tutto questo impossibile? Io vorrei chiedere l'internet da soddisfazione. Regala, esatto. regala. Allora, torno per un istante sul giusto per alternare un po' e un po'. Torno su una sonda spaziale. Vai. Anzi, torno su due sonde spaziali perché fallire una volta ci sta, ma fallire due volte contemporaneamente, no. Secondo me c'è della poesia e per due motivi diversi poi, cioè c'è veramente della poesia. E quindi secondo me va raccontata. Siamo ancora al Denver Airport, quindi perseverano? Non sono loro, sono di nuovo la NASA però. Ok. Sono di nuovo la NASA, 1998, la NASA lancia un progetto che si chiama Mars Surveyor, che comprende due veicoli spaziali automatici che devono studiare il clima marziano. Okay. Si chiamano, nel 98. Tra l'altro non era neanche il primo. Sono appunto questi due veicoli spaziali. Uno si chiama Mars Climate Orbiter, che come suggerisce il nome deve rimanere in orbita. Certo. E l'altro si chiama Mars Polar Lander, che con un nome altrettanto sgamo doveva land atterrare, esatto. Evidentemente. Allora, facciamo un avanti veloce. Arriviamo al 23 settembre del 99, i due amici robottini sono già partiti e sono già arrivati più o meno nelle vicinanze di Marte. Il Climate Orbiter ha un errore di navigazione per cui penetra nell'atmosfera marziale ad una quota troppo bassa, sì. Invece che collocarsi in un'orbita di quelle stabili, insomma, per cui orbiti intorno ad un pianeta, ci va troppo vicino e si schianta. Male. Mamma. Perché? Perché chi aveva scritto il programma per calcolare la spinta dei motori aveva usato le unità di misura anglosassoni. Ma utilizzo negli Stati Uniti, ma la NASA usa il sistema metrico che sia americana. Vedi tu. E quindi le due misure non coincidono. E quindi questa cosa arriva troppo vicino a Marte ne viene risucchiata e si schianta. Oh, ma il tizio che hai assunto per fare il codice è uno affidabile? Sì, sì, è tranquillo, un amico. Frankie. Un amico. È mio cugino. Cosa direbbe Mimmo da Rozzano? Per un po' meno. Aspetta, cosa direbbe Mimmo da Rozzano? Lo sbaglio di tuo cugino, tra l'altro, costò 125 milioni di dollari. Figlio di merda. Quindi, vabbè, drammatico. Insomma, il primo amico robottino si schianta, ma comunque rimane il secondo, dici, no? È sul secondo che si fa il lavoro adesso, no, eh? Perché il secondo si avvicina a Marte, quindi ci mette un paio di mesi in più. Sì. A partire dal 3 dicembre dello stesso anno, quindi appunto un paio di mesetti in più, non dà più segni di vita. E cosa è successo? È successo che i sistemi di bordo hanno interpretato le vibrazioni delle gambe di atterraggio come un segnale di contatto al suolo. Sì, ed è atterrato in volo. Quando si atterra al suolo, ovviamente si può spegnere i motori. No, ho spento ma il motore. Se non sei ancora arrivato, che cazzo, e mancano ancora 40 metri, ti precipiti con uno schianto. Come un peso al suolo. Morto. Raggiungendo il tuo amico robottino di prima. Il paradiso dei robottini. 365 milioni di dollari buttati. Ma così. Minchia, vabbè. Raga. Come direbbe Mimmo da Rozzano. Che figura di merda. Ma che figura di merda. E così finisce anche la storia del Mars Survivor, che purtroppo rimane lì, spantegato al suolo del pianeta rosso. Ma raga, ma cioè, quelli della NASA, cioè, controllano quello che fanno partire o lanciamo no? Lanciamo le cose su Marte e poi le lasciamo lì. Che figura, guarda che figura. Ci piace, andremo a riprendere tutto. Sai che faceva il direttore della NASA quando è andato al congresso e America a chiedere altri fondi? No, perché sapete, dopo l'ultima gloriose cose che abbiamo fatto, non abbiamo potuto filmare le mirabolanti imprese. Lì basta, ti licenzi, avanti il prossimo. Sì, certo. Finita. Bene. Ebbene sì, purtroppo sì. Che bomba. Va bene, io direi che stasera è stata veramente esplosiva. Ci ha messo un po' a partire, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Non so se hai sentito, Chiara, all'inizio è stato un continuare. Ahimè, ho sentito quasi solo l'inizio. Presenze di segreteria telefonica. Questa è una minaccia alle persone che non hanno risposto. Non fatelo più. Zona Rossa vi verrà a prendere in un modo o in un altro. Esattamente. Chiara, cosa vuoi ascoltarti adesso, allora? Allora, guarda, io ho due opzioni. Certo, poi potete decidere la musica che volete voi, visto che è già l'ultima volta, Cosa? Okay. Che abbiamo sbagliato, Guglielmo. Abbiamo sbagliato a scaricare. Sì, l'ultima volta scherzo, sì. Scherzo, va bene. Non c'è nessun problema. Il problema di entrambe queste tracce è che non hanno dei ritmi particolarmente... Cioè, non hanno dei tempi particolarmente da radio, perché sono due traccine non particolarmente brevi, diciamo. Dai. Però, allora, non lo so, ho due opzioni. Sono ovviamente canzoni che parlano di computer, okay. Perché mi sembrava giusto, o perlomeno che rimandano a computer. Una sarebbe Paranoid Android, ovviamente. Pazzesca. Di Ok Computer, da Ok Computer. L'altra, un po' più 80s, sarebbe Computer Love dei Kraftwerk. Madonna. Quindi non so. L'abbiamo. No, quindi quella non so. No, quella no, sono sicuro. Ma è una musica di Machu? No. Niente. E allora mi dicevi Kraftwerk? Perché hai detto anni 80, allora musica di Machu. No, che sai che lui è super mega Computer Love. Computer Live. Computer Love o Computer Live? Quella. Computer Love. Ma noi del fatto che non siano dei tempi radiofonici ce ne sbattiamo il belino, direbbero. Assolutamente, perché cioè, dovete vedermi prima cosa stavo facendo, non era proprio un tempo radiofonico. Lasciare Guglielmo in balia di se stesso, che mi dispiace lasciare Guglielmo. È un errore radiofonico enorme, non so come tu abbia potuto pensare. Basta aprire pagine di porno e verrucche, lo so, raga, per è terribile. Favore. Cioè, questa cosa qua, tra l'altro, questa notizia è pessima. Chiara, ma come ti vedi un inizio di Zona Rossa che inizia con solo le vostre citazioni? Cioè... Partono 10 citazioni, la sigla e subentriamo a gamba tesa noi. Io vorrei mantenere la compagna Chiara in linea per leggere insieme a lei il messaggio che è arrivato sulla chat della radio. Attenzione. In fondo. In fondo. Eccolo. Eccolo. Possiamo leggerlo? Possiamo leggerlo. Una parola a testa? Vai, facciamo che siamo troppo idioti. Vai, inizi tu. Un grazie speciale agli speaker di punta di radio Zam per i momenti meravigliosi che ci regalano a zona rossa. Chiara, sei compresa anche te in questo pacchetto di pentole bellissimo. E noi vendiamo solo acciaio inox. Coso però doppio non lo fate più. mai più, non preoccuparti. No, perché veramente è proprio cadere in basso. Però noi ho segnato il minutaggio, quindi probabilmente la riproporremo come sigla di Zona Rossa. No. O come conclusione di Zona Rossa. Chiara, o ci fermate presto o sarà peggio per voi. Sparateci, qua, possibilmente in punti dove fa male. Esatto. Ma no, stavamo dicendo una cosa intelligente invece prima di fare sta cazzata. No, allora stacca, basta. Basta, ciao. Vabbè. No, la so io. Voglio concludere, vai. Vai, no, non lo so. No, vai, mi sono dimenticato. Vai. Vai. No, stavi dicendo una cosa intelligente, quindi. Ma siete simpatici proprio, Cioè, no, ecco cosa volevo dire. Che adesso ho scoperto, mi sono ricordato. Abbiamo dei pezzi tra le quote in cui Andrea Stide dice la disobbedienza è una cosa bellissima. Attenzione. E un altro in cui... Cos'è che dice un'altra roba? Che dice la disobbedienza è necessaria. Madonna, cioè, Madonna. Quindi raga, fermi tutti. Livelli altissimi. Io devo fare... Ma quindi è un programma di ricatti. Sì, sì, stiamo tendenzialmente sì. Di fare cassa. Sì, esatto. Devo fare un annuncio. Devo fare un annuncio con Chiara presente e vorrei che alzassi un pochino i Radiohead sotto, per favore. Alziamo i Radiohead. Però da casa, troppo. Da casa, signori e signore, Zona Rossa si prende una pausa. Perché settimana prossima il compagno Guglielmo torna a lavorare. Per vostra fortuna. Vogliamo dirlo in direttissima perché anche lui si era dimenticato. Davvero. Ma questo è l'ultimo Zona Rossa. Avremo una pausa di 3 settimane perché almeno abbiamo deciso che Zona Rossa non esiste a prescindere, cioè non può esistere con l'assenza di uno o dell'altro. Vedo che però la demenza ti ha infettato per bene. Compito ormai qui è fatto. Posso andare altrove. Io propongo che ogni mercoledì venga mandata una replica. O più di una e che riempia il mercoledì di Zone Rosse. Torneremo. Ma scusami, mi viene in mente una cosa dato che siamo. Sembra un po' Vanni. Cosa? Giorgio Vanni? Giorgio Vanni chi? Sembra un po'. Ritorneremo. Esatto. Lui sembrava un po' lui. No, ma perché non apriamo una conduzione insieme a Chiara? Chiara c'è sempre stata. Ha sempre fatto un pezzo di trasmissione con noi. Perché noi, Chiara? Io sono. È una proposta indecente quella che ti viene fatta in diretta da Zona Rossa. Perché noi siamo fatti così. Ma hai voglia tu di continuare la conduzione insieme a Lorenzo mentre io non ci sono? Ma neanche per idea. Questa è Zona Rossa. È un programma che non si vuole. Hai capito l'essenza. È un programma che non l'essenza. Si vuole. Bravo, bene, perfetto. Chiudiamo Guglielmo, tutto. Zona Rossa può esistere soltanto quando due idioti di questo calibro riescono a sedersi qua. Funziona così. Però devo dire, veramente sono lusingata dal parificarmi alla vostra idiozia. Esatto, perché è un po' quello che ha fatto il compagno Guglielmo poc'anzi. Detto questo, lo metterò nel mio curriculum e andrò vanne fiera. Mi raccomando, non servirà niente come nient'altro nel mio curriculum. Esatto, ma non andare da nessuna parte poi. Cioè tu vanne fiera e basta. Poi non andarci da nessuna parte con il curriculum, certo, e stampi un altro senso e con quello vai in giro. Mi raccomando, partecipa alla campagna Zona Rossa, una foto è per sempre. Un punto molto molto macro zoomato del proprio outfit, del proprio corpo che ti ricorda Zona Rossa. Esatto. Tipo il calzino con l'infradito è Zona Rossa. È Zona Rossa. Capisci? Cioè, molto bello. Molto bello. Quindi, molto bello non molto è Zona bello. Rossa. Molto bello non no, è Zona Rossa. No. Zona Rossa è Zona Rossa. È il bello senza le L. Beo. È tipo beo. Bene, quindi bello. Noi ora rimettiamo Tom York perché gli abbiamo parlato sopra fino adesso. No, non è vero, mettiamo Computer Love del Kraftwerk. Ah, giusto. Ringraziamo Chiara, è stata gentilissima anche stasera, ci hai dato un sacco di intelligenza e di nozioni che erano belle. Tra l'altro, a furia di darvi dell'intelligenza, io sono rimasta senza. Sì, sapete dove trovare la mia intelligenza? Se volete ce l'hanno questi due imbecilli. Ciao amici a casa che non state ascoltando, e anche a quelli che stanno ascoltando, perché dai, sì. Brava. È giusto. Brava. È piaciuto. È giusto. Va bene, grazie Chiara. Ciao, Ne. Ciao amici. Ciao. Ciao. E scelto da Chiara, Computer Love dei Kraftwerk. E ci siamo. È finita la primo grande ciclo di Zona Rossa. Salutiamo. Diciamo che arrivati al, se non sbaglio, visto che era l'ultima puntata della 60 più 7, 67esimo giorno di Zona Rossa. Quindi con voi, per voi, insieme a noi, con noi, per voi. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.